sincrono, una familiarità accentuata, non so come dire. E quindi modifichiamo anche il programma, come dicevamo prima, adesso cominciamo a lavorare sulle 10:30, il professor Coliva parlerà fino a quando lo riterrà opportuno, insomma tra i 50 minuti, un'ora, cose di questo genere, poi allora parliamo un po', e intorno alla mezza concludiamo i lavori della mattinata, ecco. E nel pomeriggio appunto scendiamo in città e ci daremo a... Grazie, si torna a portare il dubbio. Penso che appunto sia la cosa da fare. Ecco. Coliva, lo conoscete tutti. Ecco, e l'argomento anche è di un interesse estremamente forte per tutto il nostro istituto. Quindi, anche se questa assomiglia a una privata, ecco, non per questo è meno importante per noi, insomma, ecco, perché proprio dallo spunto di queste riflessioni, insomma, che, come dicevamo prima anche giù chiacchierando, insomma, ecco, è partito qui un tentativo di allacciamenti di rapporti, eccetera, col mondo tedesco. Allora comincio immediatamente rifacendomi appunto, intanto ovviamente doverosamente ringraziando, senz'altro esprimendo anche il mio rammarico, dispiacere, perché il tempo è un po' così ostile e nello stesso tempo è doverosamente il piacere di ritrovarmi con vecchi e cari colleghi bolognesi con cui abbiamo parlato, discusso, battagliato, lavorato insieme. Ricordo in particolare i lunghi anni in cui Pierangelo Schiera è stato direttore dell'istituto in cui insegnavo. Una piccola precisazione, io sono adesso all'Università di Bologna e insegno diritto comune, ma sono uno storico del diritto italiano. Affrontiamo allora un momentino il problema degli statuti della nazione germanica, dell'università madre, sicuramente intendendo per università un'organizzazione studentesca, un'organizzazione gestita dagli studenti e non gestita dai docenti, come per esempio Parigi. E lasciando ovviamente stare tutti i problemi più antichi di origine, eccetera. Brevissimamente. Ci occupiamo della struttura della nazione e soprattutto direi della sua genesi, della sua funzione. Quando ci incontrammo col dottor Quiri, avevamo l'idea, il dottor Quiri aveva l'idea di proporre una edizione, una pubblicazione di materiale della nazione germanica, che a Bologna è ancora abbondante e cospicuo. Ossia, per fare un traslato, la robustezza dell'associazione tipicamente germanica ha fatto sì che i documenti rimanessero robustamente solidi e compattamente costanti nella città di Bologna, anche se largamente inordinati e largamente fuori dal circuito culturale. Peraltro, notissimo. Una breve premessa, non ho bisogno di rifarmi agli studi di storia dell'università, anche se qui sicuramente questo è un lavoro così, ha senso in un quadro generale, nel senso degli studi di storia dell'università, ovviamente, come organizzazione plurime, pluralistica, potremmo dire oggi, libera e concorrenziale rispetto alle altre entità culturali e sociali della città, quindi come entità dialettica nei confronti della città, sia Universitas che la Nazione. Come credete, per amore di Dio, parliamo amicalmente, quindi posso, penso, regolarmi senza far torto a nessuno degli studiosi. Quindi è uno dei temi classici, ovviamente, e qui vado nell'ovvio, è a proposito del definire che cos'è l'Università di Bologna, che cosa sono gli studi universitari, eccetera. Noi siamo in genere d'accordo, no? Che abbiamo un inizio di formazione universitaria quando abbiamo uno studio superiore, diciamo, diremmo adesso autogestito, abbastanza libero, vero? E specialistico. Cioè, la caratteristica dell'Università Bolognesi è di essere un'assoluta novità in un universo che si viene ricostituendo culturalmente e socialmente, che vede, tanto per dire, la nuova strutturazione del feudalesimo e l'organizzazione del comune, e in esso lo sviluppo della formazione culturale superiore, come formazione specialistica. altri problemi, li accumulo qui, ovviamente, sono tutti noti, almeno nelle loro esposizioni generali, perché negli aspetti particolari non ho bisogno di dirvi a voi, che invece queste cose sono ancora molto lontane da una buona conoscenza, data anche la situazione delle fonti, data la situazione delle fonti. Per cui noi, anche a livello di fonti, però su un decimo-dodicesimo secolo, male ci muoviamo. E non ho bisogno di dire che, evidentemente, dunque, la formazione della cultura superiore avviene quando la società ha raggiunto un certo tipo di sviluppo, può in sostanza destinare risorse all'insegnamento e alla specializzazione, e nasce in sostanza come fenomeno cittadino, quindi in sostanza la stessa logica, del comune, e direi la stessa logica di rompente. Potrei citare le famose parole di Carducci: l'università e il comune crebbero, no? Nacquero e fiorirono private, no? E nacquero e crebbero insieme. Quindi in sostanza l'università è un fenomeno cittadino ed è un fenomeno che si inserisce nella, ripeto, nella ricostituzione della città e precisamente partecipa alla ricostituzione di una cultura cittadina che è esattamente espansiva come le strutture, politiche cittadine, cioè nella misura stessa in cui il comune è espansivo, l'università è largamente espansiva, seppure con tutto un altro tipo di genetica. Un'altra brevissima premessa su cosa nasce, credo che ci vogliono queste cose, ditemi voi, siamo qui brevemente raccolti, se date già automaticamente per scontate queste cose, se non devo neanche ricordarle, insomma, per l'amor di Dio. Però, dico, è notissimo, insomma, l'Università di Bologna nasce intorno a che cosa? Nasce a un certo punto del processo di ricomposizione e di ricostituzione di studio del diritto romano, più precisamente del diritto romano giustinianeo, per i non giuristi dirò brevemente, no? Il complesso del diritto romano come codificato da Giustiniano a metà del VI secolo, nella prima metà del VI secolo, che è molto poi diverso dal diritto classico e dal diritto postclassico, che è una ricostituzione, una ristrutturazione, un'alterazione, una manifatturazione in tipo di taglio cesareo imperiale del diritto romano classico e postclassico, viene introdotto in Italia da Giustiniano e impatta con l'età barbarica, col progressivo scadimento della sua conoscenza e della sua informazione. Breviter, i testi basilari del diritto romano, soprattutto il digesto, scompaiono rapidamente dalla circolazione. È elemento noto, direi, agli studenti. Le prime cose che diciamo è che l'ultima citazione sicura del digesto, per quanto ne sappiamo, è in una lettera di San Gregorio Magno del 603-604. Dopo non si conosce più questo testo. Gli studi di varie persone, in testa tutti mettiamo evidentemente Savini, ma poi una lunghissima serie di persone, da ultimo possiamo comodamente ricordare questa serie di studi di Moro. Ma serie, numerosi studi, provano, vero, che abbiamo un processo di ricostituzione, cioè i testi che vengono prima epitomati, ridotti, riassunti, che circolano in maniera sempre più manufatta, sempre più alterata, invece subiscono un processo di inversione, di riconoscimento, di ricostruzione nell'undicesimo secolo, alla fine del decimo e prima dell'undicesimo. Ecco, questo processo di riconoscimento dei testi romanistici, soprattutto del digesto, culmina con l'insegnamento di Irnerio, con l'età di Irnerio. Qui possiamo fare un lunghissimo discorso che nasce completamente bene. Per comodità e per accertamento scientifico possiamo dire, questo è un punto di partenza essenziale, che con Irnerio, con l'età irneriana, cioè come ci dimostrano i documenti, con i primi due, tre decenni del XII secolo, noi abbiamo una ripresa della conoscenza completa del diritto romano. Ma questa conoscenza non viene, questo è il dato fondamentale, dalla pratica, cioè non viene fatta dai tribunali, dagli operatori giuridici, ma viene fatta dalla scuola, cioè da persone che, secondo la tradizione bolognese, prima erano studenti e studiosi di lettere, erano dei logici in sostanza, erano dei grammatici, erano dei loici, come dice la tradizione bolognese di Irnerio, qui loicus era, no? E viene fatta dalla scuola e riappropriata e quindi diventa strumento di scuola. Breviter ritorna a questi testi che si introducono nella pratica, su cui si cerca di fare la pratica, è la scuola che fonda se stessa. Cioè in sostanza abbiamo di questi testi un uso scolastico, abbiamo uno studio di questi testi. In base a un'idea semplicissima che è abbastanza nota, su cui ho insistito particolarmente, è una nota che feci nel Mulino nel 70, ma che è abbastanza nota, in base al principio semplicissimo che è di questi giuristi romanisti bolognesi, diciamo per semplicità in Irnerio. Cioè la convinzione, no, che questo diritto romano sia l'unico diritto possibile e praticabile, sia l'unico diritto valido, sia l'unico diritto a cui tutti devono rifarsi. Tutti gli altri diritti sono inutili, sono da cacciare via, e quindi comincia in sostanza la lotta fra il diritto romano e i diritti popolari, no? Il diritto longobardo, l'uso popolare esatto del diritto germanico, lo stesso del diritto romano, il diritto feudale e le consuetudini cittadine. Cioè, il diritto romano si pone come diritto emblematico, tipico, essenziale, esclusivo, non so, vorrei usare tutti gli aggettivi possibili, vero? Come una sorta di scoperta, una scoperta affascinante, una scoperta entusiasmante, un nuovo mondo che viene riproposto a tutto l'universo. Quindi nasce la scuola, cioè questo oggetto di studio è così importante, è così un nuovo mondo, è così un'America, che vale la pena di dedicarsi esclusivamente. Donde la scuola? La scuola con fini teorici e con fini pratici, perché la scuola, dalla scuola comincia quel processo, no, di dominio della scuola sulla pratica giuridica, che tutto sommato non è ancora finito, anche se attualmente le condizioni della scuola sono tali che ho l'impressione che sia più la pratica a giocare sulla teoria che la teoria sulla pratica. Ma non c'è dubbio che da noi tutto lo sviluppo giuridico è dominato dall'intuizione della scuola e da questo sforzo terribile che fa la scuola di applicare un diritto in fondo molto vecchio, molto lontano, molto superato, ad una realtà completamente nuova. È una sfida contro la società, sostanzialmente. È una contrapposizione tra la scuola e la società. Su questa base, e l'ho fatta anche troppo lunga, parte l'insegnamento herneriano. Riassumo per comodo, non ho bisogno di ricordare che forse prima di Ernesto c'erano altri, eccetera, eccetera. Siamo in sostanza ai primi del XII secolo. Sta di fatto, ecco, e siamo molto vicini, cominciamo a essere molto vicini al nostro, che noi sappiamo, cominciamo a sapere con sicurezza che con l'età herneriana noi abbiamo un inizio di uno studio, di uno studio a Bologna, no? Si comincia a studiare il diritto romano. Abbiamo questo da varie prove. Posso ricordarne soprattutto due in maniera molto semplice. Prima di tutto, o tre direi anche meglio, la tradizione bolognese che assegna a Irnerio la formazione di una scuola perché gli dà degli allievi, quindi quando ci sono allievi c'è la prova provata dell'esistenza della scuola. Questo è il primo dato. I famosi quattro autori bulgaro, Irnerio, Jacopo e Dugo. L'altra prova deriva dalla stessa tradizione bolognese, dalla documentazione bolognese, per cui noi vediamo in sostanza tutta la documentazione giuridica che viene cambiando, la diplomatica giuridica, il formulario giuridico che viene cambiando in questi anni, e poi un problema che affronteremo immediatamente. Quindi abbiamo l'inizio della scuola, si studia solo diritto. Per studiare solo diritto in questa piccola città che è Bologna, murata e piena di torri, che si viene già espandendo dietro la vecchia mura ambrosiana, che si viene espandendo in quelle, saldando i quartieri longobardi e i quartieri romani, in questa città in pieno fervore, come dimostrano ancora ora l'immensità delle torri che dominano la città, in questa città, diciamo stimolante, vero? Arrivano persone solo per studiare. E queste prime persone, mentre la tradizione bolognese, correttamente interpretata, dimostra un fenomeno ovvio, siamo assolutamente nell'ovvio, cioè che prima vengono dei bolognesi, ma rapidamente vengono dei non bolognesi. Quindi già in seconda generazione ci sono molti non bolognesi che vengono a studiare a Bologna, evidentemente prima dalle zone vicine e poi dalle zone lontane. La cosa di estremo interesse, che per certi aspetti è abbastanza emblematica, è l'estrema rapidità con cui questo fenomeno viene. Estrema rapidità, cioè la capacità di espansione del massaggio culturale bolognese. Per cui già alla metà del secolo, e siamo finalmente al nostro tema, noi abbiamo la prova sicura della presenza in Bologna di studenti non bolognesi e cominciamo anche a essere non italiani o comunque di zone ampie d'Italia. Cioè abbiamo la prova sicura che si è stabilito un rapporto stabile di scolasticizzazione. Per cui, in base al rapporto semplicissimo, e qui bisogna che mi ci fermi un momentino, non abbiamo molti documenti su questo, molte indicazioni, ma com'è il primo rapporto? Il primo rapporto è estremamente semplice, a formale, come sarebbe il nostro qua, no? Cioè, in sostanza, c'è una certa persona che guarda questi libri del diritto romano, il digesta il codice, li legge, donde Alexio, li glossa, donde la scuola dei glossatori, quindi in sostanza li propone a scuola e poi dopo vi fa delle glosse, quindi li propone più attentamente con un momento di meditazione culturale. E questo tipo di processo, dico, viene abbastanza recepito da persone che si interessano attivamente a questo. Ora, tra le persone che fa questo, tra il maestro che fa questa operazione culturale e gli allievi, si stabilisce un rapporto privatistico di societas. Cioè, la prima cosa che sembra chiara nell'Università di Bologna, che è sicuramente da questo lato, dico, il modello più antico, e che è, ripeto ancora, scuola superiore proprio per il suo carattere di specializzazione e di alta produzione culturale, Questi sono i caratteri, soprattutto per insistere sulla specializzazione, per distinguere l'università dalle scuole alte medievali, quelle per esempio che si studiate tanto e tanto bene, da Ugo Gualassini, con degli studi che sicuramente non andranno perduti, non c'è dubbio. Però l'università è un'altra cosa, quindi è questo. In questo studio specialistico è fatto dal rapporto tra maestro e discenti, che è un rapporto volontario, un rapporto spontaneo. Le fonti parlano di societas. Strano societas in realtà, perché i termini giuridici della societas non ci si trovano, si trova piuttosto i termini della locatio operarum, o meglio ancora della locatio operis, della locatio conduci operis, cioè in sostanza del contratto di prestazione di lavoro subordinato. Per cui in sostanza lo studente, il blocco di studenti, 2, 3 o 4, che vanno dal maestro, che talvolta abitano col maestro con un rapporto anche di locazione, ma questo è un altro tipo di rapporto, hanno un rapporto con lo studente, con il maestro, per cui in sostanza gli pagano le lezioni, questo è il suo, no? E questo rapporto i maestri lo chiamano societas, parlo di soci mei. Quindi il primo nucleo, da questo lato, è abbastanza contraddittorio, come dico, cerco di andare in fretta perché ho molta materia, ma non vorrei poi neanche andare troppo in fretta, perché se no, sapete benissimo, io so che il vostro cervello funziona con delle rapidità molto elevate, ma tuttavia non bisogna poi neanche far funzionare, cioè il tempo nostro della comunicazione delle idee è estremamente lento, questa è la verità, no? No, poi noi stiamo godendo di non ridurre lo spazio di godimento. Ma dico, pur contando, dico, sulla rapidità di elaborazione del vostro cervello, devo andare con un minimo di gradualità. Benissimo, ripeto su cose ovvie, però dico, qui siamo dei nodi, vero, della massa, ecco. E quindi in questo senso uno dei motivi di relativa originalità di questo libro, che peraltro non è originalissimo, la originalità del mio testo e il mio contributo sta nell'idea di presentare, del resto poi neanche questo nuovo, da Pasquale in poi, l'idea di presentare tutti i testi filologicamente corretti e in condizioni unitarie, in maniera che uno legga l'altro, no? Cioè evitando le famose cernite o scelte o sumule, vero, che ancora per esempio l'Ottocento conosce così frequentemente o pericolosamente, insomma non si deve antologizzare niente, ma si deve presentare tutto. Tuttavia, ripeto, questo mio testo ha per me il merito di riproporre questi problemi con una certa visuale, direi anche tecnico-politica, un po' nuova. Dunque, mi riallaccio immediatamente a quello che dicevo, il primo modo che nasce la scuola è un rapporto tra il docente e l'allievo. Ora, questo tipo di rapporto è un rapporto, dunque, in cui si deve presumere che c'è una dominanza del magister e una forza maggiore del magister, non solo per quanto riguarda il rapporto didattico, ma quanto riguarda tutta la conduzione della societas. Quando il rapporto didattico è evidente, l'autorità di questa gente è tale che non è che nessuno possa dire emerio, andare a dire emerio a bulgaro che cosa insegna, lo sa lui quel che insegna, punto e basta, e se ne voglia, oltretutto, perché è tutta gente molto impegnata, molto ricca, molto, va bene, questa è almeno l'impressione che ne abbiamo, cioè gente che trae da queste attività larghissimi guadagni. Secondo una caratteristica tipica di certe scuole giuridiche, allora come ora, peraltro, no? E ora, non però degli storici, ma del diritto. Ora, questo tipo di rapporto, di società, no? Si incontra dunque con un primo fatto che è la prova, direi ufficiale, esterna, dell'esistenza di una abbastanza grossa realtà a Bologna. Cioè la famosa Costitutio Habita di Federico I Barbarossa, siamo al 1158, l'anonimo bergamasco ci riferisce già alla documentazione, a questa realtà al 1155, in questo periodo, dunque tra il 55 e il 58, che sono i tempi della prima e della seconda calata di Federico I Barbarossa in Italia, abbiamo un incontro tra l'impero e la scuola, su cui si può e ci si è ricamato moltissimo, ma in cui, ecco, ai nostri fini si dimostra una cosa, che l'imperatore concede un privilegium scholasticum, per cui gli scolari non possono essere, diciamo, taglieggiati nell'andare e nel venire, non debbano essere soggetti alle cosiddette alle compensazioni, al sistema brutale, in sostanza, per cui nei confronti di un concittadino ci si rifaceva, in sostanza, se uno di voi ha dei debiti con un... E l'ultimo che era proposto è proprio Barroso. Per cui in sostanza no, c'era il sistema per cui se io bolognese capito qui a Trento, no, e uno di voi ha debiti con un debito con un bolognese, si rifaceva con me, eccetera. Questo sistema molto delicato, molto difficile, viene impedito dall'imperatore che dà il privilegio agli scolastici. Ma tutte queste cose non ci interessano. La cosa che ci interessa nel privilegio dello 58 è un'altra, ed è il discorso del privilegio di foro, che è il privilegio massimo, basilare, fondamentale, che in sostanza è il privilegio che assicura l'autonomia, che assicura l'indipendenza, direi quasi l'immunitas del gruppo sociale nei confronti degli altri gruppi, il privilegio di foro, cioè la possibilità di autogestirsi. Benissimo. Ora l'imperatore stabilisce che gli scolari, che qui studenti causa peregrinantur, che girano per lo studio, per ragioni di studio, quindi è un privilegio generale, ma si fa riferimento in genere a Bologna per tutta una certa serie di motivi che sono noti, che qui non esisto, ma che è comunque un privilegio generale di stampo imperiale, quindi valido per tutto l'impero, che se ripeto è eminentemente un testo bolognese, come natura, come logico, come razio, come destinatario, ripeto, in base a questo testo, in base semplice a questo testo dell'abita, gli scolari possono scegliersi il loro giudice, cioè essi sceglieranno il loro giudice nelle loro contese, ma non solo nelle loro contese tra di loro, nelle contese tra di loro, ma nelle contese tra loro e la città. Questo è il punto base, perché nelle contese tra loro, nelle contese tra loro e la città, sceglieranno loro il giudice, avranno il loro giudice e più precisamente andranno o dal vescovo, trattandosi evidentemente di clerici, e qui vi lascio a tutto il discorso sulla natura dei clerici, che anche recentemente Zianzi e Son ha fatto così bene nella sua presentazione di Abelardo, nel primo capitolo di Abelardo e Eloise. Ma i clerici possono andare apud presso i vescovi, dunque come magistrati, come giudici, vero? Oppure possono andare presso i loro maestri, donde i maestri cominciano a chiamarsi domini, assumono la giurisdizione, quindi hanno una giurisdizione, hanno un ruolo, e donde appunto il titolo superiore, appunto questi dati domini, cioè di titolare di giurisdizione, esattamente come i dinasti feudali, no? Come il dinasta feudale del contado, come il signore di medicina, come il dinasta di medicina, come il dinasta di, non so, per citare un nome classico del bolognese, il conte di Panico, che ha una giurisdizione, così il dominus ha una giurisdizione sui suoi allievi. Questa prima osservazione è abbastanza. Cioè, la prima fatto è che tutto il blocco indiscriminato dell'universitas, iuristarum, di coloro che studiano diritto e che sono legati ciascuno al proprio maestro, e basta, in questa piccola città affollata, rumorosa, in cui uno sta sopra l'altro, questi maestri, questi giovani, abbastanza giovani, sempre difficili da gestire e da governare per tutte le ragioni che si vede, hanno come giudice il loro maestro o il loro vescovo e quindi si separano dalla città. Quindi io noto questa prima separazione, non è che la noto solo io, però io ho preceduto in base a un principio di separazione e mi pare che, utilizzando evidentemente tutta una certa serie di discorsi posteriori, precedenti, questo è evidente. Quindi il primo elemento della nascita dell'università, e quindi della nascita, veniamo poi al tema, anche se la prendiamo un po' lunga, mi scuso, è la separazione tra gruppo scolastico nel suo complesso e la città. Cioè il processo è esattamente opposto, è chiarissimo nel testo, non faccio che riassumere quello che potete leggere nel testo, intendiamoci bene, il processo è esattamente opposto di quello che fa il comune. Cosa fa il comune in questo periodo? Sottopone al suo giudice, alla sua spada, al suo controllo tutte le realtà cittadine e possibilmente tutte le realtà contadine. Siamo nel 1158, il comune in piena espansione del contado. Cioè tende proprio a controllare le giurisdizioni, per esempio le giurisdizioni feudali. Qui invece l'imperatore introduce una giurisdizione scolastica, quindi fa un processo autonomo al contraddittorio del comune. Aggiungo, e ho finito su questo punto, che questo trennunc, questa divisione, avviene in questi anni in maniera molto fortunosamente. Io credo che sia l'ultimo treno che abbiano preso. Cioè non so se sarebbe stato possibile questo in seguito. Perché il comune diventa molto forte e adesso non è ancora completamente forte. E perché l'impero è ancora abbastanza forte? Solo pochi anni dopo, sapete tutti la data della battaglia di Legnano, l'abbiamo ricordata 2 anni fa, difficilmente il privilegio imperiale avrebbe inciso così decisamente come incide nel 58, quando, tra parentesi, abbiamo una presenza massiccia imperiale con l'esercito, con la cavalleria, cioè, oltretutto ci sono delle condizioni politiche molto favorevoli nel 1158. Quindi abbiamo la separazione, direi, tra la città e lo studio, e con studio intendiamo il complesso delle persone che studiano, nel termine più classico che usiamo ancora adesso. Questa è la prima divisione. Però il punto difficile è passare alla seconda e poi anche passare alla terza. È tutto molto difficile, quindi costruiamo su ipotesi, evidentemente, documentate, evidentemente riprendendo ipotesi altrui e risistemandole, con una sintesi che vuole essere qualche poco originale, devo dire. Secondo punto. Qui non è che scopre più tanto l'acqua calda, qui cominciamo ad andare in compiti, a campi abbastanza più problematici e più aperti, in cui la stessa lucidissima mente di Cencetti ha molto oscillato tra l'un punto e l'altro. Non è stato chiarissimo. Cito Cencetti, cioè il massimo studioso di storia universitaria bolognese, quindi di storia universitaria per eccellenza, che fu quel grande studioso che tutti conoscete, che è stato Giorgio Cencetti, predecessore romano del nostro Paolo, era lui in lettere, antecessor romanus, vero? Antecessor romano, prodiensis. Ora, secondo me, a questo punto dico è molto più problematico, ma ovvio siete tutti studiosi, sapete che tutti questi punti sono problematici. Noi in sostanza ci accorgiamo di un altro fatto, questo è l'altro fatto, che è sicuramente documentato da una lettera di Onorio III del 1217, prima traccia sicura, secondo il Sorbelli, non mi fido totalmente delle indicazioni di Sorbelli, peraltro. Ne ho fatto uno spoglio sistematico di tutte le fonti, anche perché tutte le fonti non sono ancora edite. Però, secondo la tradizione prevalente bolognese che risale fino a Sarti, la prima indicazione sicura dell'Universitas intesa come associazione studentesca è abbastanza tarda, è del 1217. La tradizione vuole costituire l'università in base ad altri elementi che non sto a indicare, che sono ricordati ultimamente da Rossi nello Studium Fui Bononi, nell'Università Scolarium Bononi e Comuni, scusate. L'università dovrebbe essere costituita sicuramente intorno al 1180-1190. Ora, che caratteristica ha l'università? Innanzitutto ha una caratteristica molto strana, cioè questi studenti che sono stati, per dir così, espulsi, si sono separati dal corpo della città e quindi sono in antitesi polemica con la città, no? In un rapporto sempre dialettico, perché devono salvare la loro autonomia, devono salvare la loro caratteristica nazionale, e di studiosi nei confronti del comune, delle realtà cittadine, che premono e duramente, basta vedere gli strumenti, documenti comunali da vicini per vedere quanto frammentata, quanto dura fosse la società comunale, per esempio con i debitori. L'estrema durezza nell'esecuzione giurisdizionale, per esempio nell'applicazione della norma. Molto dura la società comunale, c'è quella vigore e quella durezza proprio degli organismi giovani, se mi permettete questa variazione sul tema. Ora l'università, dico, nasce, noi ci troviamo di fronte a questo fatto che il complesso degli studenti e dei docenti sia ulteriormente separato. Perché? Perché quando vediamo nascere l'università, che secondo la tradizione generale è già costituita su 1180-1190, come detto prima, questa non comprende i docenti, ma comprende solo gli studenti. È universitas scolarium. L'università è un fatto solo degli studenti e quindi da gruppo. Il gruppo, diciamo, culturale, il gruppo dotto di questa gente che fa cultura nuova sul diritto romano e che vi si identifica con passione, direi, da esploratori, questo gruppo si è diviso. Da una parte gli studenti, dall'altra i docenti. Perché gli studenti sono raggruppati in un gruppo che non comprende i docenti? Qui non ci salta. L'altro problema che si connette con questo e che è di difficilissima risoluzione è come mai questo gruppo, pur numeroso, ma non certo numerosissimo, 200, 300, 400 persone, anziché fondare un'unica associazione, una logica, come diremo adesso, unitaria, ne forma due. Perché l'università non è uno, ma sono due. Abbiamo due università Iuris Tarum, gli studenti di diritto che studiano l'Università di Bologna non formano il movimento degli studenti, ne formano due di movimenti degli studenti. Formano due movimenti. Perché se è l'università degli ultramontani e l'università dei citramontani. Cioè l'università degli studenti di diritto che studiano a Bologna e che sono nati al di qua delle Alpi, al di qua del Bondone, e tutti quelli che sono nati al di là delle Alpi. Distinzione già stranissima da capire. È difficile da capire se si sente come mai si dividono. Quindi i problemi sono a questo punto come mai gli studenti espellono gli studenti, i docenti dal loro corpus. Va bene. Come mai gli studenti che spendono i docenti dal loro corpus e come mai gli studenti si dividono in due blocchi anziché in uno stare in uno solo? Questi sono problemi di difficile soluzione. E sono tutti problemi legati proprio al discorso della nascita, perché aver risolti questi problemi ovviamente planeremo su di noi, che siamo dentro perfettamente, non c'è dubbio. È un modo per affrontare il discorso della nascita. Questo perché per ragioni metodologiche ovvie, no? Cioè perché i documenti sulla nazione precedono i documenti sulla nazione. Quindi per capire la nazione dobbiamo cercare di capire i documenti dell'università precedono i documenti della nazione. Quindi per capire l'anziano dobbiamo partire dalla necessità, per forza, almeno da un punto di vista cronologico, cioè lo strumento non ci consente altro che questa strada. Per andare da Trento a Bolzano c'è solo questa strada, non ce n'è un'altra. E poi ci accorgeremo che Bolzano è un'altra cosa, cioè la nazione è un'altra cosa rispetto all'università, mi sembra chiaro. I problemi sono ancora più difficili da risolvere, perché la tradizione bolognese, la tradizione scolastica recente, non quella antica, quella recente, vede, ha studiato soprattutto i maestri, vede l'importanza di questi maestri, perché sono dei grandi personaggi, e sa che loro hanno la jurisdizione. Allora come mai questi maestri che hanno avuto la jurisdizione in mano, quindi il controllo dei loro studenti, che sono divisi, erano divisi in tante società, perdono questo controllo, le società si fondono in un'università unica espellendo i docenti perdono la jurisdizione, oltretutto quindi con possibilità in... Com'è possibile questo? E che avvenga così rapidamente fra il 58, poniamo, e il 1180 e il 1190? Se noi accettiamo la tesi del problema, in ultima è proprio anche il De Vergotelli, che l'abita assicura un'assoluta prevalenza ai docenti sugli allievi, noi non usciamo praticamente da questo problema. Il discorso si può fare rapidamente un po' diverso, anche se è sempre molto complesso e difficile, perché i dati sono molto pochi e vanno combinati con molta attenzione, spero di averlo fatto con attenzione e con correttezza, il discorso sembra molto semplice. Si potrebbe partire da un famoso posizione, dal giuramento che è stato imposto ai maestri dal Comune nel 1182. Se ne parlano vari autori, tra cui Piacentino che si ribella, Piacentino e Piglio, quello che fonderà lo studio di Modena, Piglio anche, molto ne dice Piglio. Si arrabbia, no? Perché il Comune le ha imposto di non muoversi da Bologna per studiare. Invece lui vuole andare a Modena, dove gli hanno offerto molto più denaro per fondare uno studio a Modena. Il Comune dunque impone ai maestri il giuramento di non muovere, di non trasferire lo studio. Si stabilisce quella che sarà la permanenza e alleanza tra i comuni, tra il Comune e i dottori. Un'alleanza tutto sommato non ancora inclinata. Cioè, all'interno del blocco studenti di coloro che studiano, i dottori si legano in un certo, accettano la norma del comune, la disposizione del comune, accettano il giuramento imposto dal comune. Quindi accettano di non muoversi dalla città di Bologna. Accettando questo, evidentemente, gli studenti perdono una delle fondamentali armi di ricatto che hanno in mano, che è proprio la loro mobilità, come dimostra la storia. Perché tutte le volte che gli studenti hanno scontro col comune e con l'estate, cosa fanno? Portano via lo studio, perché basta portare via loro stessi. È così che nasce lo studio a Padova, nel 1221. È così che nasce lo studio a Siena, come nasce se non diversamente. Quindi lo studente, il gruppo studentesco, non vuole vincoli territoriali. Dunque l'università è nata a Bologna, ma non è l'università di Bologna. È un'università, un gruppo di studenti che studiano a Bologna, ma come studiano a Bologna possono studiare da altra parte. A condizione, aggiungo, di potersi portare dietro i maestri. Invece i maestri non li seguiranno mai in questo tipo di... Quindi resterà sempre una dialettica tra maestri e discenti che impedirà sempre ai discenti di portare via lo studio, però impedirà sempre anche ai maestri di controllare compiutamente gli studenti. Brevemente. Qui mi rifaccio veramente alla tradizione dominante degli studi più recenti, anche Denis affronta questo tema nello stesso tema, lo trovate in tutti gli studi di storia dell'università. Di fronte all'imposizione del comune, diciamo così, gli studenti si ribellano e non accettano che i maestri prestino questo giuramento. Siccome i maestri prestano questo giuramento, in base a un processo che porterà poi alla progressiva comunalizzazione dello studio, per cui i maestri cominceranno a ricevere uno stipendio anche dal comune, finché poi il comune sarà il provveditore dello studio, no? Pagherà lui con la gabella grossa gli stipendi ai docenti. Scusa, ma io non sono per nessuno, ecco, stamattina dopo noi andiamo in città, ma... Scusa. Ecco, prego, figurati, non c'è il problema. Era una telefonata transalpina per quello che sono andato. Perché ci stiamo ultramontano. Tu sei rapporto con gli ultramontani. No, non buoni, ma. Ma insomma. No, anche tu, se farai così poi. Non c'è mica problema, io non ho nessun problema, tanto più che si tratta di schemi, vorrei essere molto più chiaro di quanto riesco a essere, non riesco a essere molto chiaro, purtroppo, ma vorrei essere più schematico ancora. Brevemente noi ci accorgiamo dunque che gli studenti fondano una università, questo ce ne importa, anzi ne fondano due, ma queste due associazioni sono esclusivamente studentesche, come ho insistito ripetutamente. Che venga l'albergo Roma, no? Ci prendiamo via pranzo e torna al Brennero. Loro sono già stati puniti ieri sera, però io adesso sinceramente vorrei spezzare una lancia per favore. Io mi associerei alla sua gentile profeta, perché andiamo a chiesa e ci raggiunga lì, non so, se solo venga pure a pranzo. Comunque noi sicuramente le due siamo a chiesa, ecco. Le due si sono venire a pranzo. Venire a pranzo, ovviamente scusa. Mi associerei nel mare. Direi che l'esperienza di ieri sera. Tenga conto che lo fanno anche io due giorni, quindi. No, perché lui un tempo era un buon ristorante, poi invece si capisce. No, ma mi ha mandato a trovare la carnazza. Gli erano molto più figli che dopo questa registrazione. Vabbè, vabbè. Cercherò di capire come dico le cose, come funziona, perché l'ho fatto già tante volte e mi sono sempre rammaricato di non aver preso, quindi ve lo chiedo amicalmente se potete darmi la risa per il mio uso e consumo, dico anche perché penso, poiché detto che vi darò, penso che sarà un'altra cosa, perché non ha senso che dica queste cose che fa, bisogna fare un discorso un po' diverso che poi avrei in mente, che provo adesso anche ad anticipare. L'università dunque nasce separata dai maestri, questa è la seconda divisione, la seconda spaccatura, cioè il gruppo culturale, cittadino, che viene, che si separa dalla città, cresce indubbiamente, notevolmente, si noti che gli anni di Azzone, secondo la tradizione bolognese, gli anni di Azzone sono la fine del 1100 e i primi del 200, sono gli anni più grandi, c'è la tradizione che siano circa 10.000 studenti, facciamo pur la tara, e evidentemente sono molti, Azzone dice un'altra tradizione, che siccome non poteva insegnare in casa, faceva lezioni in piazza, nella piazza di Santo Stefano. E questa è una tradizione cui si può seguire, evidentemente non il giorno che nevica e piove, ma è chiaro che Azzone doveva ricorrere a larghi ambienti, perché aveva molti, moltissimi studenti. Addirittura di Santo Stefano di Santa Piazza. Quindi il gruppo cresce, il gruppo studentesco però crescendo, dico, elimina da sé, espelle il gruppo dei maestri. Probabilmente in base a questo tipo di posizione. Ripeto, per cui i maestri però sono catturati dal comune e questo impedirà sempre, per la fortuna della città di Bologna e poi per la sfortuna della città di Bologna, nell'età moderna e anche attualmente, no? Perché adesso siamo di nuovo a questo fatto, pare che le carte della Bologna siano ormai solo riservate ai bolognesi, per mia fortuna, ma però questo è il fatto, è un dato abbastanza pericoloso, no? Regionalizzazione e provincializzazione. Dicevo, il rapporto tra il comune e i docenti, dall'altra parte il rapporto antitetico degli studenti, i quali studenti strappano, e questo è sicuro, ai docenti la jurisdiction. Questa è una grande conquista, non sono chiacchiere, questi sono fatti grossi, perché in sostanza gli studenti si giudicano da loro, mediante la creazione di quella persona, il cui nome è ricavato dalla continua esperienza che hanno intorno a loro, dallo spirito associativo che domina il periodo, e si parla semplicemente di un rector, di un rettore, quindi una formula non tecnica. Non si ricorre a una forma romanistica, una formula dotta, si ricorre a una forma non dotta. Rector è una forma dell'esperienza comunale, il rector communis, il rector societatis, il rettore degli artigiani, il rettore dei calzolai, il rettore della chiesa, dato che gli ecclesiastici sono numerosissimi, il rector ecclesia. Mentre invece gli studenti ricorrono al diritto dotto, al loro diritto a quello che studiano, per definire la loro associazione, la definiscono in termini molto, molto complessi, con una certa finezza romanistica, parlano cioè di universitas, secondo il concetto romano, l'universitas, l'universalità delle cose. Cioè l'universitas vuol dire l'università, l'universo degli studenti, proprio secondo il concetto romanistico. Quindi è questa definizione, è nuovissima, originale, spontanea, proprio delle epoche creative, no? Cioè quando le persone creative si riesce a costruire anche nomi nuovi. La creatività degli studenti, dicono, si vede solo nei murales studiati adesso dalla Resigno, ma si vede anche anticamente in questi tipi di indicazione, questo spirito di creatività del mondo studentesco. Quindi forma l'universitas, anzi le universitas, non di Bologna ma a Bologna, come associazioni esclusivamente studentesche, con vari fini, il fine maggiore è quello dell'esercizio della giurisdizione, cioè i conflitti tra gli studenti. I conflitti tra gli studenti e la città saranno gestiti direttamente e giudicati direttamente dal proprio giudice, in base a un'applicazione alterata dell'abita, una applicazione estensiva dell'abita, che è quasi della Costituzione abita, che è quasi un'applicazione quasi abrogativa, perché l'abita non prevedeva la giurisdizione degli studenti, prevedeva solo la giurisdizione del vescovo o la giurisdizione del docente. Però la Costituzione imperiale, da questi studenti pure di diritto romano, di diritto imperiale, è trasformata, è radicata in un altro, per cui abbiamo la giurisdizione degli studenti e abbiamo il rettore, scelto dagli studenti. Però il rettore, ed ecco il terzo punto, non è uno ma due, cioè nel momento stesso in cui gli studenti si separano, dopo essersi separati dalla città, dai loro maestri, si separano anche fra di loro e formano due università, non una sola. Due universitates iuristarum, di giuristi, di studenti di giuristi, iuristarum, e come abbiamo detto prima, una degli ultramontani e l'altra dei citramontani. E allora il problema è questo: come mai nel momento che devono combattere contro i maestri, e maestri di quella forza, non ricordo anche qui, cioè devono combattere contro la sola, cioè contro una persona che ha un prestigio enorme. I libri sono pieni del prestigio di Assolo, la famosa battuta: chi non ha Assolo non va da palazzo, che si presta poi tutti ai giochi di parole, no? Degli studenti, ma che rimane ben chiaramente: chi non ha Assolo non va da palazzo, vuol dire che è inutile andare a discutere con qualsiasi giurista in tribunale se non ci si porta dietro la somma di Assolo, ossia in sostanza se non si seguono i testi di Assolo. Chi non segue i redenti non faccia norme, non si occupi di procedura, non vada faccia il processo, non faccio un'insinuazione in processo se non secondo redenti. Ora, di fronte ad autorità di questa portata, gli studenti, dico, si separano e davanti a queste autorità si strappano la giurisdizione e si dividono anche tra di loro, perché di rettore non ne fanno due ma uno, non ne fanno uno ma due. Quindi è tutto contraddittorio rispetto all'esperienza che noi cerchiamo di essere uniti, invece li vediamo divisi. Per meglio dire, e qui bisogna proprio dire, divisi uniti. Perché? Perché si fondono due università che però sono uguali come struttura. Tant'è vero che gli statuti del 1317 sono uguali per tutte e due, cioè lo statuto è comune. Quindi si tratta di due entità speculari, uguali, due diversi modi di raggruppamento degli studenti, sia che siano italiani o non italiani, vero? Con la nomi dei due rettori, i quali devono giudicare insieme. Ma evidentemente cosa succede? Che il rettore degli ultramontani giudica gli ultramontani, il rettore degli citramontani giudica i citramontani. Quindi cosa vuol dire? Che non solo gli studenti non si fidano dei maestri, non si fidano del vescovo, non solo non si fidano prima del comune, figuratevi che si fidano del comune, ma non si fidano neanche tra di loro. E creiamo un rapporto, diciamo, democratico, nella ricchezza proprio del pluralismo, della loro esperienza, non so come si era diversamente questi temi, per cui creano due rettores, creano due persone, cioè, in poche parole per riassumere, ogni grande gruppo etnico gestisse la propria giurisdizione e non la lascia gestire l'altro gruppo. Questo è il punto. Quindi nascono due università di Bologna. Secondo poi quello che sarà il modello, che però verrà diffuso poi in tutta la terra, praticamente questo è il modello bolognese, che poi è il modello tipico dell'università, tanto modello che parliamo ancora adesso di università, anche se no, bisogna dire, parliamo di stati di studi, non più degli scolari, quindi in realtà parliamo di un'altra cosa, oramai parliamo di tutto un altro concetto. Sì, da questo lato queste esperienze sono molto lontane, sono lontanissime. E allora le domande che vengono ancora sono queste. Perché due e non più? Abbiamo risposto: perché non due e non una. Ma perché non due e non più? Perché insomma non ha fatto quattro università, cinque università, so, secondo le grandi aree, non so, i franchi, quelli di area francese, non so come dire, no? Quelli di area inglese, non so, queste distinzioni che pure in qualche modo si intravedono, no? Si intravedono sotto. Non è che non si intravedono, si intravedono. Ci sono già delle grandi unità di aree, vero, che possono fare pensare. Perché non lo fanno? Perché evidentemente perseguono il rapporto della massima unità possibile, ma non vanno oltre quel rapporto. Quindi il rapporto della massima unità possibile è quello di creare due università. In sostanza gli ultramontani, qui mi sembra la storia di Trento e di Bolzano, e questo condannerebbe dunque questo istituto italo-tedesco, gli ultramontani complessivamente si intendono tra di loro ma non si fidano degli italiani. Gli italiani sono probabilmente costretti a unirsi da soli, vero? Perché gli ultramontani non li vogliono. Oppure possiamo anche rovesciare sicuramente il rapporto. Pensare che gli italiani prima si siano uniti, poi si siano uniti gli ultramontani. Certamente, e poi gli ultramontani. Certamente, come che sia, il denigro oscilla su questi dati, non è chiaro ed è impossibile, bisogna pensarci ancora molto di più per arrivare a delle ipotesi più chiare, è molto difficile su questo punto. Come che sia, qui proprio per usare il come che sia, sta di fatto che si tratta di due grandi gruppi diversi, uno dall'altro. Che effetto hanno questi gruppi? C'è subito un elemento che ci salta immediatamente, anche se non abbiamo i dati statistici, non abbiamo la statistica universitaria, c'è subito un dato. In questo modo gli ultramontani si cautelano dalla possibile prevalenza numerica dei citramontani. Cioè, presumibilmente, non sicuramente, gli italiani sono molto di più, il rapporto è 2 a 1, 3 a 1 rispetto agli ultramontani, che pure sono tanti rispetto ai numeri. Se sono 1000 studenti, saranno presumibilmente 600 citramontani e 400 ultramontani, presumibilmente. Il che vuol dire che in un'unica associazione il rettore tenderebbe sempre a essere citramontano, cioè sempre italiano. In questo modo anche il gruppo minoritario si associa in forme similari e speculari all'altro gruppo, ottiene lo stesso tipo di struttura politica, ne ottiene la solidarietà, persegue gli stessi fini, ma garantisce la sua giurisdizione. Direi da questa parte il modello è perfetto, perché è articolato e funzionale. Si potrebbe usare, secondo un termine, di marciare divisi e colpire uniti, perché in realtà così si muovono le due università. Quando c'è da colpire, colpiscono uniti. Quando c'è da andare via da Bologna, non c'è bisogno di ultramontani, c'è tutti. No, quando c'è da fare la festa, la fanno tutti insieme. I problemi sono comuni. La lotta contro gli affittacamere è una lotta comune, per usare questi termini adesso di moda. No, i problemi sono vari. Quindi in questo senso, no, i problemi sono comuni. Però nella gestione fondamentale dei giudizio, allora ogni gruppo si cautela in questo modo. Questo è il punto. Quindi abbiamo due università che si costituiscono dunque con l'espulsione o con la contrapposizione rispetto ai docenti ai primi del 200, sono una realtà definita, vero? E sono una realtà che caratterizza in maniera particolare questo modello. Benissimo. E adesso passiamo all'ultimo punto. Cioè, perché noi poi vediamo un'ulteriore specificazione nell'organizzazione dell'Universitatis, cioè la nazione. Ossia l'elemento nazionale non inteso in senso moderno, ma inteso in senso antico, no? Nel senso medievale, no? Quindi la nazio, per esempio, la nazio è una di quelli che provengono da una certa area geografica, abbia o non abbia quell'area geografica unità politica. I Lombardi non hanno nessuna unità politica, se non perché rappresentano un'area intensamente e fittamente costituita su strutture comunali, ma anche densamente aggregata su strutture feudali, sottoposte nella gestione politica alla realtà comunale. No? I Lombardi sono quelli dell'Italia del Nord, la nazio dei Lombardi. La nazio dei Toschi, no? La nazio dei Toschi sono quelli dell'Italia centrale, in una zona ancora comunale. Ma la nazio napoletana, la quarta delle nazioni degli notissime, no? Citramontani, degli italiani. La nazione napoletana è caratterizzata invece da gente che viene, e quindi di prevalenza di estrazione feudale, che viene da terre a dominio feudale, a dominanza feudale, o addirittura con un re unitariamente presentato, quindi anche da uno Stato in qualche modo, per quanto debole, per quanto incerto e così. Quindi zone, gente che viene da zone diverse, da grandi aree geopolitiche diverse si raggruppano. E così fanno i francesi, no? I francesi, quelli turri, quelli del Pitou, no? Quelli dell'Ile de France, i francesi risentono delle grandi aree feudali di ripartizione, no? Ecco. E così i castellani, cioè i castigliani, cioè negli ultramontani abbiamo una pluralità di nazioni, gli angli, gli scozzi, no? Che risentono delle grandi aree geopolitiche, etnico-culturali delle loro zone, e quindi queste nazioni, se mi rifaccio al concetto di Chabot, l'ho citato, anche chi mi viene spontaneo di farlo, io non faccio, ripeto, che andare dietro le cose che ho fatto e semplicemente in qualche modo glossarle, niente di più. Le nazioni, dunque, no? Le nazioni non sono le nazioni moderne, evidentemente, ma sono gruppi etnici di tipo tradizionale che non coincidono necessariamente con strutture politiche o anche solo con strutture politiche affine. Si può dire in genere che sono studenti di estrazione feudale che vengono da aree intensamente feudalizzate, a parte gli italiani del nord e del centro, che vengono da aree intensamente comunalizzate, si può dire soltanto questo. Per quanto riguarda la prevalenza, quindi l'estrazione sociale, si pensa in genere a studenti di estrazione medio-alto feudale, Però specie tra gli ecclesiastici, specie tra i chierici, ci sono anche molte componenti di pauperes, perché gli ecclesiastici hanno i conventi, hanno delle strutture in cui ospitano abbastanza modestamente i loro studenti. Quindi questo è un dato di importanza enorme. Lo studente ecclesiastico, cioè un ecclesiastico anche povero, può, sacrificandosi molto, diciamo, sfruttando l'utilizzazione, la struttura ecclesiastica, insomma andando dentro al convento di San Francesco, vero, vivere e studiare a Bologna, mentre un laico questo non può farlo. Questo segna una grande differenza, e spegne anche la prevalenza della cultura ecclesiastica, e significa poi tutto questo intenso sforzo di cristianizzazione del diritto romano, che è molto intenso anche se non arriva a dei grandi risultati, perché qui vi ho fatto tutto un discorso, no? Il complesso dell'intelligenza giuridica è un'intelligenza molto pratica e speculare sul diritto, ma è debole da un punto di vista filosofico. E quindi il momento della, direi, quel processo di cristianizzazione, no? Che Parigi fa dei momenti filosofici, vero? Non avviene così per i momenti giuridici, anche se però abbiamo la formazione di un diritto canonico, e se abbiamo la formazione, ricordo per incidere, non so, per esempio l'amputazione di tutta una certa serie di affermazioni romanistiche che sono chiaramente anticristiane, questo non c'è dubbio. Ora arriviamo, allora siamo arrivati alla Lanzio. La Lanzio è una realtà che noi vediamo operante dopo, quando abbiamo visto nascere l'università, non la vediamo operante prima non la vediamo, cioè noi ricostruiamo la Lanzio sulla base delle strutture universitarie, perché sappiamo che l'universitas è una confederazione di naciones, cioè questi gruppi etici eleggono ciascuno un consigliario o due che formano quello che chiamiamo adesso il senato accademico, la consigliatura dell'università, i domini consigliari che a loro volta eleggono il rettore. Quindi le nazioni sono espresse da dei consigliari, da dei capi, i quali a loro volta eleggono il rettore. Questa è la struttura. Hanno o non hanno sede, in genere si appoggiano alle varie nazioni espresso delle chiese, che svolgono una funzione a un tempo religiosa e civile, la funzione classica dell'assistenza, la funzione classica della mutualità, la funzione classica del culto, che è tipica poi di tutte le strutture medievali, così come la corporazione artigianale, così si muovono anche le nazioni, e quindi fanno capo ad una chiesa. Sappiamo varie notizie, per esempio per gli angli, vero? Abbiamo varie notizie, per i germani abbiamo delle notizie antichissime. E adesso arriviamo a questo nostro punto, anche se ormai è molto tardi, cercherò di essere molto rapido. Per i germani sappiamo con sicurezza che loro si riuniscono a San Frediano in una chiesa, indicativamente in una chiesa fuori delle mura. Cosa vuol dire fuori delle mura? Vuol dire che l'universo si tende a faticare a trovare spazio dentro le mura, come logico che sia. Le scuole sono dentro le mura, però sono sempre in zone progressivamente più periferiche per lo sviluppo, imponente sviluppo edilizio dell'epoca. E le nazioni estendono, la nazione va fuori delle mura, si unisce a San Frediano, senz'altro perché è dilettevole, perché è piacevole, perché è su per il colle, subito di là la porta d'Asenio, subito c'è ancora via di San Frediano, a destra della salita dell'Osservanza, c'è ancora in nome, a destra, subito lì c'è via di San Frediano, ricorda l'antica chiesa che non c'è più, ma le memorie sono infinite, non c'è dubbio, vero? Non c'è dubbio delle cose della chiesa, dico, si riuniscono lì, no? E gli altri si uniscono presso varie chiese. Le singole università poi si riuniscono, vero? In genere una a San Procolo e l'altra a San Domenico, nelle loro assemblee generali. Poi i giuristi prenderanno tutte le abitudini di andare tutti a San Domenico nelle grandi riunioni di tutte le università. Allora, che cos'è la Lanzio? Applicando questo schema, allora il discorso sulla Lanzio diventa abbastanza facile. Ho detto prima, ci planevamo dentro, perché è abbastanza semplice. Che cos'è la nazione germanica a Bologna? Modello di tutte poi le nazioni germaniche. Ricorderò quella di Padova, ricorderò quella di Siena, mi pare, o Siena o Pisa. Ecco, ci sono vari esempi di nazione germanica. Cioè, i germani sono un gruppo molto numeroso, sono un gruppo che pesa molto, sono sicuramente il maggior gruppo tra gli ultramontani. Sono un gruppo che certamente ha iniziato a riunirsi, a trovarsi, anche solo per bere, per divertirsi, o per cantare quei terribili inni goliardici che sono poi notissimi nelle taverne, eccetera, sicuramente ha iniziato a fare questo subito. La tradizione goliardica bolognese fino a 10 anni fa conservava ancora delle tracce precise di questi antichi, cioè, non c'è dubbio. Quindi avevano preso l'abitudine, ma non avevano probabilmente, questa è l'ipotesi che faccio io e che si può fare con altri, eccetera, anche se su questo punto ci sarebbe tutto un problema di discussione contro le opposte tesi del Gaudenzi, il quale però ha studiato molto geniale, ma è stato studiato un po' troppo in fretta, secondo me. La nazione aveva per abitudine di trovarsi, ossia naturalmente tutti quelli che venivano da un certo posto avevano l'abitudine di trovarsi, diciamo, sotto i portici, eccetera. Ma non è un fatto ancora istituzionale. Può darsi che poi queste nazioni via via siano state istituzionalizzate, ma per pure ragioni, non so, per esempio per ragioni di culto, no? Per avere un culto comune, cosa fondamentale, no? Per, non so, per trovarsi, non so, a certe feste, eccetera. Noi però ci accorgiamo che siamo di fronte ad una formalizzazione delle nazioni quando nasce l'universitas, donde la nazione si deve considerare una cellula dell'universitas, e anche qui il discorso è complesso, si deve cioè dire che quando si raggruppano in università, gli studenti a loro volta utilizzano all'interno dell'università il modello della nazione. Così come gli ultramontani hanno evitato la prevalenza dei citramontani, mediante due universitates, così i singoli gruppi nazionali si mettono d'accordo all'interno dell'universitas per concorrere pro quota alla nomina del rettore. Per cui, insomma, ci sia un patto di associazione sicuro, per cui si sappia quando aspetta il rettore uno, quando aspetta un altro, insomma, in maniera da evitare che il gruppo maggiore, in questo caso sicuramente il gruppo germanico, che comprende tutti gli studenti che stanno tra le Alpi, il Reno e il Danubio, direi sostanzialmente, fino ai Poloni, sicuramente i Cechi, i Boemi, sicuramente tutti i germanici nel senso più lato del termine, nel senso più vasto, più pieno, questa è la nazione più numerosa. E quindi il problema all'interno della nostra ultramontana è identica che c'era tra le due università, di impedire che, in base al loro numero, alla loro compattezza, alla loro continuità, al loro orgoglio, a tutto quello che volete, venisse sempre fuori un rector teutonicoro, un rettore eletto dai germani. E quindi che applicasse sempre la giustizia a favore dei germani e degli altri, quando veniva un conflitto, per esempio, tra di loro. Questo è il punto basilare. E quindi, secondo me, in questo caso, la vecchia struttura della nazione, della Nazio, struttura informale, struttura goliardica della Nazio, viene formalizzata, sistemata e usata come cella portante, come una delle pietre dell'edificio. Solo che, siccome non siamo in età di egualitarismi forzati e secondo me nocivi, come siamo attualmente, in base alle idee illuministiche, no, dell'uguaglianza di tutti, eccetera, queste cose che invece domina attualmente, no? Cosa comporta? Comporta che le universitates non entrano nel consortium, nella societas, nell'universitas ugualmente, ma c'entrano in base alla loro forza reale. Cioè non è che ciascuna sia uguale, ma ciascuna pesa per la forza che porta dentro. Per cui, in base al famoso patto del 65, che ci è conservato ancora in originale, noi sappiamo con sicurezza, in base a una delibera presa dall'Università Ultramontanorum nell'estate del 65, 1265, siamo dunque già molto avanti, tutti questi documenti sono molto tardi, si stabilisce il principio che le nazioni si raggruppano, ultramontane si raggruppano in tre gruppi. Un gruppo di un certo gruppo di nazioni, non sto qui a ricordare, un gruppo di un altro gruppo di nazioni e poi i germani da solo, quindi i germani sono un gruppo da solo. E il rettore si cava un anno dal primo gruppo di nazioni, un altro anno dall'altro gruppo di nazioni, poi dai germani, poi di nuovo dal primo gruppo di nazioni, poi di nuovo dal secondo gruppo di nazioni, poi dai germani, poi dagli altri gruppi, in maniera cioè tale che ci sia una successione, per cui si ha un rector teutonicorum ogni 5 anni, cioè i germani ogni 5 anni sanno, il che vuol dire che la loro forza è di un quinto della forza totale. E tutte le altre nazioni si raggruppano per ottenere lo stesso risultato, cioè per concorrere alla elezione del rettore. Quindi, mentre i Poloni o gli Angli non sanno se avranno un rettore o no, perché tutte le volte da discutere, i Germani sanno con sicurezza che. Questo fatto, e ho finito, anche se dovrei dire tante altre cose, da questo momento parte la storia documentata della Nazio Teutonicorum, molto significativo che gli statuti siano posteriori a questa data, al patto del 65, secondo me non casuale. Naturalmente dico subito che noi abbiamo pubblicato gli statuti che erano noti, non è che abbiamo scoperto niente, no? Solo erano inediti. Da questo punto di vista c'era stata una grande opera editoriale sulla Nazio Germanica, forse voi la conoscete, sono gli Acta Nazione Germanica editate nell'88, nell'89, nell'87, scusate, da Friedlander e da Malagola. Friedlander e Malagola pubblicarono uno volume degli atti della nazione, uno degli statuti, i privilegi e parte delle matricole, questo pubblicarono. Noi abbiamo fatto un altro filone, in fondo più serio, anche se più modesto, perché, cioè abbiamo tentato di pubblicare tutti gli statuti della nazione. E questi statuti sono molti, numerosi, densi e ben conservati. Il problema gravissimo, ne abbiamo mancati qualcuno, non credo, data la struttura. Quindi per fare la storia statutaria non la faccio. Se mi date ancora 5 minuti, se avete la pazienza, vi dico brevissimamente i problemi della storia statutaria del nastro teutonico. Se no, possiamo anche chiudere. No, perché è un'oretta che parlo, mi sembra un po' troppo. Senti, se non sei stanco tu... È stato così piacevole. Noi è come se avessimo appena cominciato. Vabbè, adesso dico alcune cose e poi basta. Poi ne discutiamo. No, no, no, questo è tutto un altro... Intervalliamo un po' e tu riprendi freddissimo. No. Non vorrei che tu abbreviassi per... No, non c'è problema, possiamo, se mi dite questo, possiamo... Siccome dopo un'ora in genere... Vabbè, insomma... Proprio la misura in cui facciamo seminari... Se ti vuoi riposare. No, no, non è veramente questo. Ti assicuro che non, a mia volta non faccio nessun problema, lo dico per voi che ascoltate. Ecco. Nella misura proprio così siamo qui. Queste cose si fanno sempre in maniera informale, qui poi siamo ancora più informali del solito, quindi a maggior ragione vi chiedo, insomma, non so come dire. Dico, parte la storia del statuto, cioè questa gente si dà uno statuto. Prima osservazione, questi statuti della nazione sono abbastanza interessanti, articolati e molto ricchi. Il materiale è imponente, complessivamente, della nazione. Il materiale residuo è imponente. Prova sicuro che la nazione faceva un grosso sforzo di documentazione. E poi il nostro materiale è abbastanza completo. Prova sicura che la nazione fino al 1750-70 ha saputo conservare le proprie memorie, cosa che in genere le altre nazioni non hanno fatto. E quindi tutto l'altro materiale tedesco è andato sostanzialmente perduto, posto che le altre nazioni avessero una disciplina interna, una regola compatta, una normazione così compatta come Germania, cosa che non credo, cosa che escluderei. Cioè esiste una dominanza da questo lato della nazione tedesca nella documentazione, prova evidente della sua dominanza, capacità, compattezza, solidità, e quindi in sostanza anche si dovrebbe pensare di una certa prevalenza ideale o culturale nei confronti degli altri gruppi. Questo è abbastanza ovvio, mi pare una conseguenza che si possa trarre senza troppa. Inoltre un'altra osservazione, il materiale giuridico bolognese imponente, cioè questa produzione giuridica che corre incredibilmente sempre con funzione creativa dell'incredibile, da Irnerio fino a Giovanni d'Andrea, dall'inizio dell'insegnamento di Irnerio, all'inizio del XII secolo fino alla peste nera, che ha ucciso veramente con Giovanni d'Andrea il nucleo, il fiore della scuola bolognese, ma ancora dopo, poi con Giovanni Calderini, arriva Alessandro da Imola, quindi con tutta una certa serie di grandi ripetitori, di grandi studiosi, di questa enorme produzione, che è produzione culturale locale e produzione editoriale locale, non resta quasi più niente a Bologna. Cioè tutto è andato via. Tutti gli studenti hanno portato le loro carte in questa villa, a casa loro, al castello di Badlode, per esempio. Cioè i bolognesi sono stati terribilmente dispersivi del loro materiale librario e culturale. Bene, il nucleo maggiore dell'articolo di Vertes che rimane sono alcune, a parte i grandi statuti dell'università che sono rimasti in loco, a parte i rotoli dei dottori, a parte una parte della documentazione studiata ancora recentemente dal Cencenti, gli archivi, quel famoso articolo di archivi dello studio di Bologna, dico famoso perché ci si è girato intorno parecchie volte in tanti. Però la documentazione parziale più compatta e più impressionante è questa della nazione germanica. Parliamo solo degli statuti, sebbene la documentazione della nazione germanica vada ben oltre gli statuti, perché ci sono almeno 4 o 5 volumi di acta, non mi ricordo, 4 o 5 volumi di acta, che sono semplicemente, sono soprattutto i momenti della missione dei soci, sono i grandi, il cambio, la citazione del cambio del procurato, cioè del capo della società, queste sono le indicazioni basilari che sono negli acta anno per anno, quindi anno per anno si può seguire tutta la vita della società. Poi abbiamo dei bellissimi, abbastanza ampi libri di matricole, tra cui quelli antichi, no? E poi abbiamo la raccolta dei privilegi, con cui la nazione si rinforza dopo il 1530, dopo l'arrivo, specialmente dopo l'arrivo di Carlo V. Quindi è una questione imponente, largamente superstite, anche se superstite in maniera fortunosa, perché ritrovata da Malvezzi in piazza, dove era dal rigatiere, no? Cioè nel 1800, questa roba dovrebbe essere rimasta in opera, in funzione fino alla fine del 700, legata alla forza della nazione, nel cadente del Sinaresimo. Poi arrivano i francesi e i francesi sconvolgono l'ordinamento bolognese, sconvolgono le biblioteche bolognesi, come sapete, creano il mostro dell'archisinaggio, distruggono il vecchio istituto, la vecchia istituto scolastico, e trasferiscono anche materialmente, no? La sede da un posto all'altro, eccetera, dall'archisinaggio a Palazzo Poggi, mentre dedicano l'archisinaggio a un grande deposito agrario, inordinato allora come ora. E cioè i problemi, abbiamo i problemi che dell'Università francese del 96, strano, ma sono ancora aperti da questo lato, cioè quelle ferite non sono state sanate, anche se temo che qui i modernisti mi sgrideranno molto e avranno anche ragione dal loro punto di vista, però questo è il fatto. Il materiale dell'università va disperso, evidentemente, no? A un certo punto questo della Nazione Germanica viene recuperato in piazza nel 1825 da Giovanni Maria Malvesi de' Medici, cioè da un aristocratico bolognese, quale compra, credo, per poche lire, perché non credo che se avesse comprato per molte lire le avrebbe comprate, ma non voglio fare dei giudizi cattivi contro Giovanni Maria Malvesi de' Medici, il quale è un benemerito perché con sé compra tutti questi casi, no? Si accorge, e anziché permettere che venissero venduti così come materiale, o per dirla con un muratore, qualcuno ci arrotolasse le sardelle, vero? Le prende e le porta in casa sua, poi dopo queste cose sono conosciute, poi le piene in casa sua, e secondo l'uso bolognese le tiene bene sotto chiave, nessuno le vede, eccetera, finché si avvicina quella famosa data che è l'ottavo centenario della storia della fondazione dell'Università di Bologna, le grandi feste centenarie del 1888, abbiamo un grande archivista che è Carlo Malagola, Malagola chiede in giro, questo si ricorda, il figlio si ricorda di avere questo materiale, lo dà a Malagola e si fa la prima edizione di questo materiale, lo fa Friedlander, Malagola con Mommsen, no? Interessante questo dato, varrebbe un'indicazione questa, un'opera pagata con denaro tedesco, revisionata da Friedlander, ma sostanzialmente fatta tutta da Malagola, che vede firmato il suo immenso lavoro anche da Friedlander, sostanzialmente un processo di rapina culturale, cioè questa grande opera, gli Acta Nazioni Germaniche degli Stati di Bologna, stampata a Berlino nel 87, bellissima, porta, vero, come curatore delle edizioni i nomi di Friedlander e Malagola. Io, dal fondo della mia tradizione bolognese, rivendico invece a Carlo Malagola il pieno merito della lettura del testo, dell'intesa delle signore, e anche del taglio dell'edizione. Il merito è anche il demerito, perché in sostanza Malagola ha preso un pezzo da tutte le masse e ha pubblicato un pezzo, insomma ha confuso un po', ha pesticciato un po' le strade. Si è pesticciato anche nelle strade, perché quando noi abbiamo parlato con autorità tedesche per provvedere a questa edizione, le autorità tedesche, ma è già stato fatto il lavoro, in realtà non era stato fatto, era stato stampato il primo degli statuti come il primo dei volumi degli Acta. Così come sono andati a stampare tutti gli altri volumi degli Acta, volendo, come tutti andare a fare tutti i privilegi, volendo, o le matricole, volendo, e così noi abbiamo pubblicato tutti gli statuti, perché questa massa di statuti è abbastanza interessante, è molto ricca e ben conservata ancora, pur avendo subito. Il problema grosso, ve lo dico subito, lo immaginate, ve lo immaginate da voi, è il problema della compiutezza, della cunosità, no? Soprattutto in testa e in coda, perché noi pubblichiamo una serie che è monca in testa e in coda. E io sono personalmente dell'impressione che tra questa testa e questa coda ci sia tutto. Insomma, salta ABC, ma da D fino a S o T c'è tutto, poi salto UZ. Questa è la mia ipotesi, sperando che sia così. Basandomi inoltre su un unico esemplare, non ho dei grandi problemi su questo, il problema delle varianti è secondario in testi di questo tipo, perché prendendo i testi che vengono dall'archivio della Nazio, presumibilmente dovrei stare sul testo fondamentale, questo mi sembra abbastanza ovvio, cioè non prendo una copia. A parte un caso di cui adesso brevemente parliamo. Questi testi sono molto, molto ricchi, partono dopo il 65, in base a certe cose e certi documenti che c'erano negli Acta, presumo che non ci fossero statuti generali, ci fossero solo statuti particolari, cioè che il Liber Statutorum, uno statuto organico, sia stato fatto soltanto per la prima volta intorno al 1288-1290. Questa è la prima ipotesi che faccio, in base a indicazioni che trovate qui dentro, e qui non è il caso che dico. Quindi il 1288-1290 dovrebbe vedere il primo statuto organico della Nazione Germanica, dovrebbe vedere, perché non ci è rimasto. Ci è rimasto uno statuto successivo, ma non in copia originale, è andato perduto. Il Bohacek, non molti anni fa, in occasione di studio, pubblicando un contributo sugli studi in onore di Edoardo Volterra, insigne romanista, tra l'altro adesso già rettore dell'Università di Bologna, titolare di diritto romano a Roma e adesso giudice costituzionale, uomo ricco e fortunato in tutto, pubblicando gli studi su Voltaire, Bohacek, studioso di Praga, ha pubblicato la copia di uno statuto della nazione germanica che non a caso era a Vesavia, che poi insomma la biblioteca che poi insomma lui ha trovato sostanzialmente alla biblioteca centrale di Praga, invece che sarebbe Ceslao. Non a caso, perché nulla, in sostanza, un certo studioso, vero, che è stato qui, che risulta dalle matricole, che è presente, che è abbastanza documentabile, certo Nikolaus Schulz, quindi boemo, ma io direi più tedesco che boemo, ad ogni modo, canonico di Bratislava, in Slesia, studente di diritto a Bologna e procuratore nel 1463, capo della nazione germanica, e si può vedere anche dal libro del CNO che avete su, noi che studente in Bologna, è chiaramente registrato, questo signore fa una copia degli statuti e se la porta dietro. Questa copia viene trovata dal Boace, che è pubblicata, e questo statuto che io chiamo del 1345-1348, cioè uno statuto che per quello che lui non lo data, chiaramente, lui dice solo, vero, dice, anzi lui dice il contrario, questo signore che si copia lo statuto, explicium statuta generosissime nationis dominorum teutonicorum, seu ala mannorum, studentium Bologna, scripta ibidem a Bologna, per Nikolaus Schulz de Olsna Major, in carnis brevio 1463, nel carnevale del 1463, dice solo questa data, ma scritta vuol dire in realtà copiata, non c'è dubbio, lo statuto che viene di dati, comparandoli poi con i dati della nazione, sì, in base alle ipotesi fatte molto correttamente dallo stesso Bohacek, lo statuto dovrebbe essere del 1345-1348, secondo statuto della nazione, insomma prima della peste nera. Lo statuto è il secondo statuto della nazione, dopo quello che io presuppongo del 1288-90, presuppongo in base a dati, abbiamo questo statuto che non abbiamo però una copia originale, dico che abbiamo una copia, sia pur copia diretta. È fiducioso, è meritevole di fiducia, perché vi lascio giudicare voi, tuttavia è una copia fatta da colui che aveva in mano le carte, essendo procurato della nazione, che è il conservatore delle carte, che si è portato via una copia dello statuto suo studentesco, no? Ad memoriam, quindi una copia che merita fede, copia abbastanza interessante, copia abbastanza ricca, che noi abbiamo visto però purtroppo soltanto in microfilm, non abbiamo visto nel suo codice, quindi per la descrizione del codice mi sono limitato, come segnalo, a indicare, però noi l'abbiamo letto il codice, intendiamoci, noi l'abbiamo letto in fotocopia, quindi questo che è qui non c'è dubbio. Dopo questo codice del 1300 abbiamo lo codice ultimo dell'ultima dell'età medievale, qui è qua 1497, codice molto ricco, codice molto imponente, una splendida edizione di quell'anno si presume, da cui è tratta anche questa, che era un testo miscellaneo, conteneva il codice e conteneva lo statuto, conteneva le matricole, presumibilmente della Nazio, e contiene anche questa bellissima miniatura che il dottor Quirin Pinocchi ha voluto riprodurre e che abbiamo accortamente messo all'inizio del testo. E questa miniatura ha la data, l'unica data che noi abbiamo visto e che tutta la tradizione vuol seguire, che secondo me è senz'altro da seguire, perché questo come carattere di scrittori è un codice che non ha ancora, per esempio, non ha ancora i dittonghi, quindi è preumanista ancora, oppure i giuristi utilizzano le lettere umanistiche abbastanza tardi, ricorrono al dittongo abbastanza tardi, per tradizione, no? Il giurista è. E quindi, cioè, è scritto ancora per il latino non dittongato, quindi il latino abbastanza medievale, c'è una forma migliore. Qui c'è una data, che qui quasi più non si legge, ma sotto la cattedra del magistero o procurator, questo è più probabilmente il giuramento degli studenti, vero? Il magistero e procurator, cioè uno dei loro, vero, che fa giurare le nuove matricole e per mettere a libero le matricole della nazione, sotto c'è la data 1497, l'unico elemento di datazione insieme ad altri. Fine del 400, senz'altro lo secondo statuto che ci è rimasto, primo di quelli che erano noti fino ad ora, fino all'edizione del Boacek. Dopo quella data lì comincia tutto un processo molto ricco legato a. Quindi in sostanza abbiamo tre grandi statuti medievali, uno perduto e due no. Uno del 200, uno del 300, uno del 400. secondo poi la logica della statuizione medievale, che se ne dica, il concetto giuridico medievale proprio dei dotti è che la norma non si può cambiare, si deve cambiare molto lentamente. La norma non si cambia, si emette soltanto, potrebbe essere un miglioramento, l'accrescimento, ma non il cambiamento. L'idea di che per cambiare rapidamente le norme è un'idea tutta moderna, quando in sostanza l'idea di diritto è del tutto ormai priva di elementi, diciamo, soprannaturali e trascendenti, ed è un concetto ormai meramente, direi, sociologizzato, no? Per cui la norma, noi ci facciamo la norma. Dissacrato. Per studiosi di diritto romano, anche di diritto canonico, che studiano testi fissi, la norma non si può rifare. Dico, da lì parte poi una successione di statuti abbastanza interessanti, di età moderna, con una certa serie di rifacimenti, alcuni diversi dagli altri, altri molto uguali agli altri. È abbastanza interessante lo statuto del 1575, che siede una grande diaspora della nazione, poi quelle del 600 e del 700 che tendono a ripetersi, come vedete sto concludendo e mi scuso ancora, e includono anche i privilegi sono finiti dentro lo statuto. Si insiste molto sui privilegi perché i privilegi valgono solo per gli studenti che si iscrivono a Lazio, non ho bisogno di aggiungere che per studiare a Bologna non c'è nessun bisogno di iscriversi a Lazio, non ha nessun bisogno di iscriversi a Lazio, vero? Quindi la Lazio rimane una sezione volontaria di difesa degli interessi, quindi c'è sempre una parte di studenti anche germanici che non si iscrivono a Lazio. Ecco l'insistenza sullo statuto, sul privilegio, cioè chi si iscrive a Lazio per la quota di certi privilegi che potete vedere anche qui. L'ultima osservazione che voglio fare, arriviamo con statuti fino addirittura al 1750, quindi abbiamo con l'edizione stampa, dal 1610 in poi cominciano le edizioni stampa, anche molto belle, abbastanza belle, fatte direttamente dalla nazione, presso i soliti editori bolognesi, Rossi, il Benacci, i soliti editori camerali, editori delegato, il lettore che tu conoscerai bene, no? Ecco, i soliti editori. In bolognesi abbiamo questi statuti abbastanza ben stampati, eleganti. L'ultimo è del 1750. Mi sembra molto difficile, ma non lo so, che dopo il 1750 ci sia un'altra redazione statutaria. Anche calcolando la sostanziale immobilità del testo, perché dal 610 in poi il testo tende in sostanza a riprodursi abbastanza immodificato, anche se questo che osservo non è vero, perché lo statuto del 1662 invece contiene modificazioni, anche peraltro profonde. Quindi c'è una certa tendenza alla fissazione del testo, quella che vediamo nel processo statutario molti secoli prima, ma tuttavia non è identificata. Nell'ultimo statuto, di cui abbiamo solo l'edizione, non abbiamo, ai noi, il manoscritto. Non sappiamo se ci sono statuti posteriori, mi sembra ben poco probabile. La natura della nazione è largamente cambiata, eccetera. Certamente è diventato un gruppo aristocratico ristretto, non è più ormai un gruppo germanico, un gruppo italiano, si potrebbe dire, se fossimo in quella stanza di là, un gruppo austriaco, insomma ci sono i tirolesi, ci sono i trentini, sono questi, perché i trentini, no? Fanno parte della nazione germanica. E quindi ci sono trentini, ci sono quelli della terra dell'impero in sostanza, no? Ci sono goriziani, ci sono istriani dell'Istria austriaca, non dell'Istria veneta, dell'Istria austriaca, vero? Trentini, bolzanini e austriaci, qualche austriaco, e soprattutto tirolesi del sud e tirolesi del nord. Questa è meno un'impressione che si ricava esternamente, ma direi con buon fondamento. Ecco, assume in sostanza questo carattere. Non è più né più una nazione solo di giuristi, ma è una nazione ormai di studenti in generale, quindi ha cambiato natura, difende strettamente i suoi privilegi, vero? E in sostanza si mantiene a Bologna ancora funzionale, oligarchica, eccetera, così, con un certo rispetto dei suoi statuti, delle sue tradizioni, e in sostanza conferma, fino alle solite età moderna, mantiene fino alle storie dell'età moderna il ricco fiorire e qualche cosa ancora del ricco tessuto e della ricca vita che ha dato luogo a queste realtà nazionali e universitarie e quindi a tutta la struttura della sociale, sociologica, politica e anche culturale dell'università medievale e moderna. E un po' il mondo dei canonisti a Bologna col mondo dei giuristi, che in certo qual modo nella sua esposizione costituisce l'università, insomma, come tale. È un corpo estraneo che viaggia per conto suo, un'altra università per dire, o invece fermenta, vive dentro in mezzo, questo Ah, ma signora, la risposta è molto semplice. I canonisti sono in mezzo agli altri giuristi. E si distinguono ultramontani o citramontani a secondo che siano ultramontani o citramontani. E stanno dentro la nazione germanica se sono germanici. In poche parole, il giurista canonista non si distingue organizzativamente dal giurista laico, dal giurista civilista, che sia laico o ecclesiastico. Naturalmente la tendenza è che gli ecclesiastici sono sempre canonisti, ma ad ogni modo dal 300 in poi, dopo l'esempio di Baldo, comunque tendono a essere, anche per quello che sappiamo, è ancora molto poco. Cioè gli ecclesiastici, i chierici sono sempre canonisti, in più sono anche civilisti. I civilisti, i laici invece sono talvolta spesso canonisti essi stessi, perché anche il laico ha bisogno del diritto canonico. Spesso tutta la materia matrimoniale, alle cause sui benefici della Chiesa. Il laico spesso diventa avvocato ecclesia, funzionario della Chiesa, e quindi entra in meccanismi della Chiesa pur essendo laico. Ecco, nei meccanismi promozionali, proprio la laurea in utroque diventa la chiave per l'apertura della carriera in entrambe le direzioni. Che riflessi ha nella formazione? È interessante in questo termine. Ma quello mi stuzzicava anche per un po' per l'origine, l'impostazione dello studio della materia, dell'oggetto, insomma, no? Perché se per il diritto ateneo vale quanto è stato detto circa questa lacuna, in certo qual modo, che c'è stata della foto di produzione, ma per il diritto canonico invece no. C'è una continuità, c'è precedente, insomma, immediato, no? Sì, signora. E si va mischiando, si vede allora questo... No, io direi una cosa molto semplice. Il diritto romano è una fonte bloccata da Giustiniano in poi, e poi, malgrado gli inani sforzi degli imperatori teutonici, rimane una fonte bloccata. Cioè, c'è qualche aggiunta, no, al corpus iuris, ma sono corpus modesti, la Costituzione Reprimenda, l'Abita, ci sono alcune aggiunte, la Pace di Costanza, ma sostanzialmente si aggiungono di fatto i libri feudali, cioè si aggiunge anche il diritto germanico feudale al diritto romano come blocco, eccetera. Ma sostanzialmente la fonte di produzione è bloccata, quindi in sostanza la fonte di produzione diventa dei giuristi. La fonte canonistica non è così. L'intervento della scuola però è identica, perché l'intervento della scuola comincia innanzitutto a proporre il sistema in maniera più organica, quindi forse c'è un gran salto tra Burcardo di Worms e Graziano, no? Questo è il primo punto. Quindi anche lì la scuola entra in funzione di sistematico, di sistemazione della norma, questo è il punto. Poi continua anche con aspetti produttivi della norma, però in questo caso c'è sempre la presenza della fonte superiore, cioè il Papa, cioè i Vescovi, eccetera, quindi c'è sempre una fonte di produzione. Quindi la scuola resta subordinata in questo in qualche senso, è stimolante, è estremamente importante, perché rimane un grande spazio per l'interpretazione. Però non è così creativa come per i civilisti. I civilisti creano il diritto. Quindi da questo lato il diritto canonico, continuamente ammodernato, continuamente prodotto, che ha le sue grandi collezioni dopo l'inizio della scuola di Bologna, anche della scuola canonistica di Bologna, perché la scuola di Bologna comincia con la creare un grande sistema di corpus di diritto canonico e a studiarlo i decreti. Però poi interviene il Papa, fa Raimondo di Pennaforte, eccetera. E abbiamo le decretali, abbiamo il 37, poi abbiamo il Liber Extra, poi abbiamo le Clementine, cioè abbiamo tutta una produzione che dura fino alla metà del 300 e poi si blocca, no? E lì abbiamo di nuovo un aspetto interpretativo della scuola molto interessante, però con sempre un'interpretazione anche autoritaria, un'interpretazione anche dogmatica, ufficiale, cioè la fonte di interpretazione autentica è sempre presente, perché la Santa Sede è sempre presente. Non si può ricorrere al Supremo Concistorio Imperiale, che non c'è più, ma si può ricorrere alla Santa Sede. Quindi gioca in maniera molto più moderna, in questo senso, il diritto canonico, da un certo lato, è più sciolto, no? Questo non c'è dubbio. Quindi il gioco è diverso. Poi, qui, lascio parlare Prodi, si blocca l'interpretazio e si fa soltanto l'esegesi, dopo da 500 in poi manca più il momento creativo. Però il momento produttivo continua a esserci, che invece manca completamente per i civilisti, questo è poi il dato originale. Poi un'altra cosa che mi incuriosisce. Però vorrei aggiungere una cosa, i civilisti in realtà però cominciano a diventare essi stessi fonti di diritto, come ho detto, e quindi dopo un po' non si studia più Giustiniano, ma si studia Bartolo, si studia Baldo, si studia Paolo di Castro. Di fatto è così, ogni generazione ha i suoi grandi autori su cui lavora, il 400, il 500 non lavora più su Bartolo, vero, ma lavora su Paolo, su Gesone, il 600 lavora su De Luca, parlo sempre dei giuristi, cioè i giuristi diventano fonti di diritto. Questo non c'è dubbio, fino a che questo in concorrenza con la fonte statale che ripropone, no, che non è una fonte omogenea ma una fonte disomogenea, perché la fonte statale propone, mentre la fonte papale è sempre una fonte omogenea. Questa è la differenza di fondo. Io direi che forse non è la collezione delle moltitudini che è importante, credo, a partire dal 500, non so in Italia veramente. Beh, in Italia c'è un processo interessantissimo, pochissimo studiato, secondario, per cui mentre in Francia noi abbiamo la ripresa del diritto nazionale, in sostanza, del Moulin e gli altri, la creazione delle grandi cotumie di Francia, insomma, e anche lì con la funzione antitetica del principe, ma unificante, vero? In Italia noi abbiamo un altro processo, abbiamo una sorta di congelamento del diritto statutario, quindi il diritto nazionale lo si vede nel diritto, nel vecchio diritto statutario, che viene circondato da grandi apparati critici. E quindi c'è un processo di questo tipo, solo che non produce, non va molto avanti, perché cioè va avanti, ma però l'elemento fondamentale non sarà né la riproposizione del diritto romano, né la riproposizione del diritto popolare, del diritto spontaneo, del diritto statutario, perché è petrificato, ma sarà sostanzialmente la creazione del diritto del principe. Quello che, per esempio, ha fatto la Chiesa, però Prodi definisce correttamente, mi pare, come diritto pontificio. Questo non c'è dubbio. Il rapporto tra l'albornoz e il diritto, cioè il rapporto tra l'albornoz e il diritto canonico è un rapporto ancora largamente subalterno, no? Ma quello tra le norme canonistiche, eccetera. Ma invece, quando siamo i grandi principi dello Stato della Chiesa, la grande normazione, il Consiglio Quinto, eccetera, non mi sembra che tutto sia più subalterno. Insomma, è un discorso abbastanza complesso. Cioè, interviene il principe che non è omogeneo. E abbiamo dei processi però di commento della consuetudine locale. L'intesa però commenta tutto. Perché la consuetudine scritta da noi è sostanzialmente a parte che nel sud, ad esempio il famoso delle consuetudini di Bari, sarebbe tutto da rivedere, la consuetudine da noi è uccisa dallo statuto. Vedi l'esempio, tu che sei milanese, le consuetudini milanese del 17, che poi è soppresso di fatto, è soppresso dallo statuto. Quindi il diritto consuetudinario arriva dallo statuto e si blocca con lo statuto. Non pretendo di dare risposte, sono problemi completamente aperti. Passando alle nazioni come tali, io mi sono occupato un po' per i concili della riforma e così, mi ha fatto sempre impressione come è una cosa quasi spontanea anche in quei congressi lì che si mettono in piedi automaticamente, nascono per generazione spontanea subito queste nazioni, no? Si vede che c'era un retroterra molto forte che insomma portava a questo, probabilmente proprio negli ambienti universitari, ma ecco, non so, io li vedo sconfigurarsi immediatamente queste quattro nazioni, no? L'italiana, la tedesca, la francese, l'inglese e poi la quinta, a Costanza, che sopravviene la spagnola, no? Ecco, non so, adesso qui la documentazione per le altre nazioni, oltre la germanica, a Bologna è precaria. È precaria, sì, molto precaria. Ma arriva perlomeno a dire quante erano quelle nazioni, come si configurano? Abbiamo un elenco preciso, Abbiamo un elenco preciso, sono quattro ultramontane, l'elenco dei certi tramontane, come ho detto prima, essendo sempre quattro. E le cittramontane invece, le ultramontane, scusate, oscillano, perché abbiamo vari elenchi, che vuol dire, in poche parole, che sono diverse nel tempo, via via si spengono, questo è il punto. Ma sono quasi una ventina, al massimo dell'espansione sono circa una ventina, cioè sono molte, le ultramontane. Le ultramontane sono circa venti. Perché piccole, insomma. Ma sì, allora la Germania. Alcune si fanno 10 individui, quindi non c'era bisogno di fare statuti. E non c'è una nazione francese, allora, per esempio. No. Una nazione Picarda e Breton, eccetera. Esatto, o Burgunda, per esempio. Sì, tutti quelli di Borgonia sono i Burgundi, no? Ci sono quelli di Pitou. Però contro questa la Germania fa una nazione unica. Una dei Germani invece, sì signore, cioè da loro i grandi ducati di stirpe ci sono ormai. Si sono in parte sciolti, no? Svevi, Franconi, eccetera. Abbiamo una strutturazione territoriale di un certo tipo, una ramificazione feudale di un certo tipo, e non abbiamo, a livello delle classi alte, la creazione appunto della nazione, degli svevi, una nazione dei bocchini, c'è stata delle tensioni interne. Però su questo non c'è dubbio, abbiamo un'unica nazione interna. Quindi numericamente sono state indiscutibilmente non c'è dubbio, più numerose stabilmente. E questo dimostra anche, è dimostrato da reperti archeologici che abbiamo pubblicato. Quindi, diciamo, questo però giustifica anche il fatto che si siano trovati gli strumenti della nazione germanica e di altre nazionucole, per così dire. Certo, molti di loro non ci saranno dati strumenti. Scusa, nel 10 o 12 si fa il rettore che stava a litigare, uno se ne fischiava, allora, e quando toccava uno, anche per tanti motivi, insomma, dopo c'è la tendenza a fuggire dalla carica elettorale, ma questo è un altro discorso. Ci voglio partire molta forza per quella della gara elettorale che non dà più quel potere che dava prima. Prima molte nazioni sono nazioni minime, minori o comunque in profonda trasformazione. Ma forse quei gruppi di nazioni a cui lei accennava per farli diventare omogenei con la nazione germanica, forse raggruppavano approssimativamente, non so, l'uno le Spagne, l'altro la Francia. È solo per arrivare a capire quella divisione quadripartita o insomma di cinque nazioni che nei concili del 400 sembra naturale, spontanea, insomma, anche se c'è una forte disuguaglianza, ma perché di fatto l'inglese è numericamente esigua, però insomma è automatico che si costituisce una nazione inglese come la nazione germanica. Lei dice spontaneamente. Io però potrei fare una giustificazione, ricorrere alla giustificazione storica, che credo che sia valida. Cioè, quando queste nazioni sono nate a Bologna, il processo unificatorio territoriale nelle grandi aree non era così avanzato come nel 400. La monarchia non c'era ancora o era limitata. Questo è probabilmente il punto. Per esempio, i germani avevano tutti conto comunque dell'idea imperiale radicata lì, comunque, fin dall'età ottonica, fin dall'età ottoniana, no? Quindi l'idea di unità culturale e anche politica nei germani probabilmente c'era, ma non poteva esserci nei francesi, in cui invece si ricollegava alle vecchie divisioni, quindi essendo nata nel 200 è così è rimasta, e così è rimasta. E quindi non si è mai formata una nazione di nazione. Cioè le strutture universitarie hanno una profonda tradizione. Cioè si dimostra che dopo un certo punto, passato un certo punto critico genetico, non si modificano più. E all'interno della stessa nazione germanica ci sono delle sottonazioni? Ci sono delle sottonazioni. Sì, che portano il nome di nazione? No, ci sono dei gruppi che talvolta assumono il carattere di nazione, per esempio i polacchi. Per esempio i polacchi, ma spesso i polacchi entrano poi invece nella nazione germanica. È il caso famoso di Copernico, non ho bisogno di ricordarlo. Cioè c'è tutta un'area immensa tra Polonia e Germania, che è così ancora adesso, che ha in fondo nomi tedeschi o nomi multipli, in cui si direi c'è un'egemonia culturale germanica, per cui è molto difficile per questi gruppi dell'est, la Slesia, direi appunto la Boemia, la Slesia e tutte le zone, non so, occidentali della Polonia. Io non avrei molti dubbi, visti. Per l'amor di Dio, la domanda mi viene perché io sono stato al collegio germanico, dunque lì erano tutti di una nazione in fondo, no? Come lui studiavano al collegio germanico. Ma è quello che ha affermato io della nazione germanica. Il collegio germanico, cioè, però, all'interno aveva, pur essendo in fondo una specie di seminario, aveva una ripartizione per nazione non comparabile col fatto corporativo di Bologna, senza dubbio, no? Ma si vede che rimbalzava una certa reminiscenza lì, al punto che esistono in archivio ancora questi libri nazionis, c'è una Natio Tirolensis, una Natio Bavara, una Natio Renana, una Natio Francone, no? Insomma, era automatico perché i gruppi lì ridividersi secondo i gruppi regionali o etnici, chissà sulla base di quali tradizioni, io non lo so, ma hanno un libro di matricola proprio dove oltre, insomma, registrano i loro adepti, no? Nella loro nazio, distintamente, senza preoccuparsi di quella che è la matricola della casa, del collegio dove vengono tutti elencati ufficialmente dal rettore, no? Hanno una loro gestione, insomma, no? No? Per questo domandavo se all'interno del gruppo germanico esistono simili nazioni, sottonazioni che saranno evidentemente esistite a livello, diciamo così, goliardico, di balle, di gruppi contrapposti, ma non c'è dubbio che a livello istituzionale non ce ne traccia. La matricola registra la presenza tutti gli anni di 20, 15, 30 persone che vengono effettivamente da tutta la Germania, che vengono da Colonia, che vengono da Tirolo, che vengono da Germania in questo senso lato, che vengono da Vindobona, che vengono dalla Sassonia, che vengono dalla Schleswig-Holstein, nomi, nomi sono disponibili, dico sono disponibili anche qui, l'elenco è stato pubblicato dal CNOL nel 98, quindi qui non c'è problema, ma non c'è traccia di suddivisione, c'è traccia invece della tendenza di taluni gruppi talvolta a estraniarsi da una selezione, questo è un altro conto, quando possono, è il caso, ripeto, dei polacchi, però quando non possono, non possono, sono pochi, si fondono, orientano, per dir così, nella selezione, anche se questa storia di sottonazione non è stata fatta. Dubito che sia mai possibile farlo se non attraverso uno studio e una lettura attentissima dei documenti, allora forse vengono fuori i discorsi, perché abbiamo tanti di quei volumi di acta, e gli acta, come tu sai, leggendo bene sotto le righe, senz'altro potrebbero dire qualcosa in questo senso. In modo, la risposta è: la nazione germanica non si divide ufficialmente in sottonazione, è un blocco unico fin dall'inizio e così come tale rimane fino in fondo. Anzi, con la tendenza successiva puoi aggregare anche gli angli, gli scossi, cioè vari gruppi, poi dopo il 500 cominciano a aggregarsi alla nazione germanica come unica del gruppo delle lingue non latine. Quindi tutti i diarmi, sì. Esatto. Possono proprio di più, allora possono trovare un certo, cioè godere dei privilegi, eccetera. Con l'idea, ripeto, che molta gente rimane fuori dalla nazione e non si mette in matricola in nessuna nazione, e pertanto molti gruppi etnici non sono registrati né registrabili. Questo è il punto, questo è sicuro. Io mi faccio gli studi della Stella in Michaud, mi pareva che io improvvidamente non ho citato, sebbene mi fidi moltissimo, ma non poi del tutto, neanche gli Stella in Michaud, adesso ho detto qui tra noi, cioè uno studioso senz'altro rimarchevole, ma mi pare un po' disinvolto in certi passaggi. Tuttavia lui dà a un certo punto alcune indicazioni numeriche interessanti, e la sua indicazione è appunto che mi pare un terzo di studenti, secondo quanto lui può calcolare, quindi del tutto intuitivamente, stanno sempre qua, cioè non si iscrivono nazionale, anche che costa molto iscriversi nazionale. La spesa non sempre equivaleva ai vantaggi? No, io direi che dopo il 500 valeva i vantaggi perché aveva molti mezzi e poteva così avere un certo prestigio, eccetera, se no non ne valeva la pena. Quindi penso per tutti i chierici, i canonisti. Si sa quant'era la quota di iscrizione? Ci sono molte cifre, sì, non mi ricordo, ma ci sono cifre. Sono cifre riportate anche nel Statuto. Sì, quindi come cifre rilevanti. Rilevanti, poi le spese sono notevoli, guarda, le spese che deve fare quando c'è la laurea sono spese molto notevoli, che vengono crescendo col tempo a misura che il gruppo, prima abbastanza indifferenziato e direi più popolare, direi diventa sempre più un gruppo aristocratico, secondo la logica della classificazione principesca della società. Questo è un po'. Secondo l'imitazione dei grandi, no? Come in fondo c'è ancora l'università, i più grandi, i più ricchi, i più belli, no? E questo è il gioco che conta, il principe conta di più dell'altro e così via, cioè lì non ci sono accenni di tipo comunitario in questi sensi, anzi. Quando ciascuno vive, chi vive bene, chi ha soldi prende un gran auspizio, chi non vive bene vengono in cinque in questa fase qui. Chi può compra il codice glossato, chi non può se lo fa prestare dal maestro, che si fa pagare una tangente. Tutto si paga, è caro. E una cosa, Paolo, che della giurisdizione riservata, privilegiata, era attinente solo alle questioni civili, anche a quelle penali, solo questioni fra studenti o anche questioni fra studenti e cittadini o fra studenti e istituzioni cittadine? La storia della giurisdizione elettorale è difficile da fare, però le linee generali sono abbastanza chiare. Primo, la giurisdizione elettorale nasce come usurpazione. E gestisce il rapporto tra lo studente e la città. Punto primo. La giurisdizione elettorale, a differenza di quella dei maestri, tende a essere anche giurisdizione penalistica. Anche penalistica. Cioè loro vogliono irrogare la pena, va bene, la multa, la sanzione evidentemente, ed eventualmente delegarne l'applicazione, se vogliono, alle norme, alle autorità comunali. Non avevano il carcere, eccetera. Sì, tra l'altro lo statuto vieta il carcere privato, che pure è un uso praticato. Era un uso praticato? Un uso praticato quello del carcere privato, per tanti motivi, perché poi da studenti romanistici che conoscono la capsule per debiti, quindi ci sono queste tendenze. La normazione feudale medievale, come sapete, c'è anche ovviamente nelle costituzioni albornoziane, le costituzioni albornoziane vietano il carcere privato, c'è una clausola, siamo nel 1357, quindi in una certa fase il gruppo dello Stato, però E quindi la giurisdizione elettorale tende a espandersi un po' su tutto il contenzioso. Naturalmente su questo punto c'è il conflitto con il comune. Dico, ma il contenzioso solo fra studenti o anche fra studenti e cittadini? No, il contenzioso fra studenti e cittadini, questo è il punto. Perché il contenzioso è col locatore di casa, quindi col comodatario. Condannare penalmente l'affittuario. Certamente, a rifondere il coso, eccetera. Naturalmente l'affittuario non deve rivolgere. Una estensione di potere. Questo è il punto. Dopodiché, naturalmente, loro lo pretendono questo e il comune eventualmente deve applicarlo a lui come esecuzione, come pignorazione, per esempio, no? Come pignus, o come obbligo all'ingresso, per esempio, come accesso, come missio in bonus, come tutte queste forme qua. Non c'è dubbio. Per quanto riguarda l'aspetto penale, così mi basta che ricordiamo, qui è tutto da studiare, per l'amor di Dio, gli aspetti processualistici sono tra i meno studiati, a parte alcuni lavori nuovi, non in campo universitario, ma dello studio sul del Padoa-Schioppa sull'appello, abbastanza significativo, ma queste giurisdizioni non le conosciamo dunque. Però uno dei motivi grandi di conflitto è proprio quando il comune esegue una sentenza penale, in genere seguita da condanna a morte. Questo in genere produce una situazione di tensione e la fuga, la diaspora dell'università. Cioè, in sostanza, ci sono dei casi gravissimi nel 1321, ce ne sono nel 1221, nel 1322, ci sono quelli famosi del 1574 con scontri violenti, eccetera, in cui il comune interviene, dà sentenza che secondo il comune è sua, non se ne parla neppure, eccetera, o il comune addirittura lo Stato, il legato, dopo il 500, e queste norme, questo gli studenti non lo accettano. Non l'accettano, sono normali. Ecco, quindi soprattutto quando il comune arriva all'esecuzione capitale, allora quello è un attacco per il comune, cioè non ci arriva. Arriva al bando piuttosto. La diatriba arrivava a reati di tale elevatura da comportare del giorno con la morte. Sì, ma tu non devi dimenticare che questo gruppo studentesco, compresi chierici, essendo di estrazione di famiglia nobiliare, è gente che mangia con la spada al buio, con la spada, come si dice adesso. Di legge era anche quello di portare le armi. Questo è il punto, quindi è un gruppo armato, il partito armato, per usare i termini attuali. Quindi, in un altro senso, nel senso che lì veniva da una situazione di normalità, ma tu concentri l'opposto, insomma. Certamente, il popolare non poteva portare le armi. Assolutamente. Mentre qui siamo quello che descriverei, è il processo, diciamo così, di pluralità, di pluralismo di giurisdizioni, che è un dato di fatto della Costituzione, diciamo così, dato medievale. Sì. E il processo semmai è l'opposto, cioè quello di accentramento, di unificazione contro la molteplicità delle giurisdizioni. Certo. Oggi siamo alla fase opposta, cioè di fronte a un punto di partenza che è di unità giurisdizionale, si assiste in tutti i campi all'emergenza invece di un problema giurisdizionale, questo in tutti i campi. Pensi cosa sono i sindacati, quindi sono processi storici che hanno una grandissima, in questo senso, importanza storica. Sì, io pensavo che lì fossero limitate a questioni civili tra di loro. Invece l'importanza della faida Volevo fare due domande, una è la nascita dei collegi nazionali in relazione con questo, perché appunto il famoso collegio dei Fiamminghi, ma insomma abbiamo questo tipo di perfezionamento in base a donazioni, lasciti e compagnia, quindi ha contribuito anche questo, forse non so che modo, a rompere la università, questa è una domanda. Posso rispondere? Siamo già nel XV secolo, no? Posso risponderti subito? Non so se altri... No, no, su questo punto non c'è mica problema. Ma siccome tu hai detto due domande... No, l'altra era totalmente diversa, sì, cioè il problema della facoltà di arti, e la sua inserzione in questo sistema. Sì. Quindi è una domanda proprio per mia ignoranza assoluta, cioè... probabilmente qui siamo nel XV secolo, come quindi già nella tarda. No, siamo prima. Come consistenza, insomma, sì, c'erano anche prima. Sì. Il discorso è questo, queste due risposte sono in linea di massima abbastanza facili, appartengono alla tautologia della storia universitaria bolognese, cioè noi conosciamo alcune tautologie, alcune affermazioni, una delle quali è proprio la scuola ghibelline, questa roba qui, no? Che non è mica vero. E poi sotto, in fondo anche qui, diamo le lezioni e facciamo anche l'ipotesi, facciamo altro. Dice Paolo Prodi, prima cosa, i collegi. Il primo collegio universitario, noi abbiamo una certa documentazione sui collegi, essendo fondazioni murarie, eccetera, abbiamo un elenco abbastanza interessante, tra l'altro sono stati studiati abbastanza recentemente bene anche da Padre Piana, per esempio. Padre Piana, benemerito degli studi di storia universitaria bolognese, grosso, studioso, un padre minore, francescano minore, quella annunziata, no? Un personaggio di indubbio rilievo da tutti i punti di vista, l'impressione. Comunque come studioso, erudito, eccetera, ma guardarsi però da considerarlo solo un erudito, perché in realtà è molto di più. Anche se per certi aspetti il suo convinto, non c'è dubbio, però un grosso studioso. Ora, ebbene, per i collegi abbiamo il primo è il collegio del cardinale, il collegio Bornosiano. E il collegio Bornosiano ha praticamente una data di origine ben precisa, 1364 è il testamento, l'inizio dell'applicazione immediata, e col 68 che 69 il nipote dell'Albornoz è il primo rettore del collegio, funzionante sicuramente dal 1369. Il collegio però degli spagnoli, detto così, risponde già più alla logica che dice Monsignore. Perché? Il collegio non si identifica con la nascita. È un organo gestito che si può, in pratica gli studenti si autogestiranno secondo la volontà del fondatore, no? Benissimo, quindi c'è una commissione di garanti, in sostanza di persone che gestiscono, privatissimo, assolutamente privato, una cosa bellissima, no? Comprano un'area intera nel centro di Bologna, fanno quel po' di costruzione che è ancora lì, no? Ciò che resta della vecchia università, in parte gli statuti delle nazioni germaniche, alcuni codici d'archiginnasio, le tombe dei glossatori, poche anche quelle, abbiamo perso anche le ossa dei nostri morti. Vero? Ad ogni modo, molti sepolti a San Domenico, eccetera, San Domenico centro della scuola della vita universitaria, dico, e poi il collegio di Spagna, che tra l'altro conserva al suo interno la più interessante biblioteca giuridica medievale, non del mondo, perché la più grossa è alla Vaticana, ma essendo solo specialistica, è a 200-250 codici di grande significato. E di che anno sono i codici? In realtà della Fondazione, no? Ecco. Quindi siamo a me, ecco. Il Collegio di Spagna, la faccio un po' troppo lunga, mi scuso, non accoglie solo, non va più per Nastro, cioè non accoglie i castigliani, no? O i catalani, o i portoghesi, insomma i lusitani, i vari gruppi, no? Soprattutto l'eccezione, quella classica anche attuale, no? Tra castigliani e catalani, no? La distinzione che corre tra la Spagna, la più grossa, ecco. No. Il Collegio di Spagna accoglie studenti da tutte, di lingua iberica, quindi studenti anche portoghesi. Anche non iscritti alla NASA. Anche non iscritti alla NASA, non è assolutamente. Sono previste altre richieste, no? Che sono la purezza del sangue, la fede cattolica, la legittimità dei natali, secondo una logica ben precisa, ma nient'altro. No, assolutamente. Anzi, il Collegio di Spagna nasce proprio per mandare dei non nobili. È esattamente il contrario, è una fondazione per i pauperes. No, a tutto il contrario. Che poi sia poi piena di nobili, che poi sia piena di grandi... Ma io mi ricordo uno, non è che conosca bene, ma io ho studiato lì il Sepulveda, e Sepulveda era un modesto borghese, il quale aveva un parente, quindi un parente nella cattedrale di Toledo, conosceva il primato di Toledo, e pertanto poteva andare a prendersi la becca nel 1519, e diventa quel grande umanista, addirittura segretario di Carlo V, studioso, storico, polemista con Las Casas, un grande personaggio del 500 spagnolo, nascendo a Pozoblanco in Andalusia. Vabbè, immaginavo, e questo personaggio è antipatico a Prodi, ad ogni modo, e viene fuori da modeste estrazioni. No, non farei neanche io, perché mi sembra un po' anche... Ma, ad ogni modo, nasce da modeste estrazioni, ecco. Poi vengono fuori gli altri collegi via via, no? L'ungarico, il lirico, eccetera, che più ne ha più ne metta, soprattutto tra 300 e 400 sulla scia dell'esempio, e non coincidono con le nazioni. Volevo dire, ecco, che si sbaglia, quindi si rifà a un principio di area linguistica, culturale, non si rifà a una nazione, è già un altro concetto. Cioè, in realtà è un'altra stratificazione più vicina a quello che c'è, cioè l'emergere di supranazionalità rispetto a quelle medievali, a di nazionalità che cominciano ad avvicinarsi alle nazionalità moderne, o comunque delle grandi aree linguistiche. L'area linguistica spagnolo-iberica, per cui tra portoghesi, catalani e castigliani poi si intendono. Se mi permettete la banalità, l'osservazione è questa. In ignoranza domandavo questo, cioè i collegi sono anche una prima formulazione dei poteri politici, volevo arrivare un po' a questo, cioè, locali, cioè il passaggio da una definizione di aree nazionali geografiche a definizione invece più geopolitiche, cioè di interventi di governi locali per controllare i loro studenti a Bologna o no? Ecco, no. No, questa è una tesi interessante, ma per quello che risulta io direi intanto perché il controllo avviene poi, come sai, sugli studi dopo il 1563, cioè questo lo sai tu molto meglio di me, quindi lo dici tutto su questo discorso, ma in questi no, direi di no, hanno scopi promozionali, senz'altro l'autorità può in genere poi sono fondazioni private, sono spesso più spesso fondazioni private, fondazioni ecclesiastiche, fondazioni papali, e quindi il Collegio Sistina, per esempio il Collegio Ungarico, non sono tanto fondazioni dell'autorità, l'autorità quando nasce non tende più a favorire gli studenti di venire a Bologna, direi che lo Stato fin dal suo principio è nemico dell'Università di Bologna. L'esempio più che mi viene a me medievalista è l'esempio di Federico II, che fonda contro Bologna l'Università di Napoli. Cioè si tratta di piuttosto della Chiesa che è sempre vicina a Bologna. Questo va detto. Cioè sono piuttosto fondazioni ecclesiastiche che sviluppano il bisogno economista. Ora, cioè è un tentativo di conservare l'Università di Bologna nei confronti delle pressioni monarchiche verso l'Università Nazionale, dando facilitazioni di alloggio, eccetera, che mantengano, che contribuiscono a mantenere di fronte alla tendenza centrifuga, no? Esatto, pensate quando cominciano a nascere le grandi università in Germania, quella di Vienna, no? Quella di Praga, che sono grandi università oltretutto, cioè nascono bene perché hanno accumulato tanta cultura, come fate fatto qui, no? Che avete fatto presa del muro, ma poi avevate tanta cultura, avete usato 2000 libri, avete cominciato a fare delle robe, perfino no? E che queste università accumulano cultura e quindi c'è la tendenza centrifuga da Bologna, cioè perché uno deve andare a Vienna, è una magnifica sede, oltretutto è vicino al principe, non si capisce, ma infatti la gente va a Vienna, non so come, è tanto logico che la gente ci va, no? E così via, insomma, non so, la colonia, quelle grandi università dell'area germanica, no? Oh, tu mi hai chiesto un'altra domanda che naturalmente adesso non mi ricordo. No, qual era sul problema della facoltà di arti? Oh, molto semplice, la facoltà di arti si afferma contro i giuristi non vogliono un'autorità, è la solita logica dei giuristi, i giuristi non vogliono tante cose e non vogliono la facoltà di arti, non vogliono che il Comune riconosca la facoltà di arti, impongono le artes, devono essere come scuola secondaria, ma non avere gli spazi che... Contro la facoltà di arte, tuttavia la facoltà di arte riesce a costituirsi, è difficile che si costituisca, non so, io non so come abbia fatto, perché è fatta di medici, è fatta di filosofi ed è fatta anche di notari, è una strana roba la facoltà di arte, è un residuato. Anche i notari. Anche i notari, la notaria fa parte della facoltà di arte. E però ai primi del 300 è già costituita. I primi statuti suoi sono del 400, ma la facoltà di arte, l'università degli artisti, è molto antica, nasce dopo una dura lotta con i giuristi. Che non vogliono riconoscere i privilegi di foro e presidente a queste cose, ma vogliono semmai che questa gente in qualche modo sia sottoposta all'università dei giuristi, debba passare attraverso la mediazione del rettore dei giuristi, le protezioni dei giuristi, la forza dei giuristi. Questo è il punto, i giuristi restano la mente dominante a Bologna, direi fino alla fine sostanzialmente, pur nel profondissimo decadere, nell'abissale decadere degli studi giuridici. Basta vedere i punti in cui siamo giunti. Io mi piace dirlo perché faccio parte di quella facoltà, ma forse proprio io sono la prova di quella decadenza. Volevo chiederti una cosa che non so se c'entra, ma tu mi sembra molto opportunamente hai insistito nella ricostruzione sullo snodo rappresentato dal rapporto, insomma, tra questi tre poli che sono gli studenti, i maestri e il comune. questo qui mi sembra decisivo nella ricostruzione che tu hai fatto della tua ipotesi, perché effettivamente qui non siamo solo di fronte alla pubblicazione di statuti, ma siamo di fronte a una proposta di lettura del fenomeno universitario come fenomeno non solo di studio, ma politico, insomma, molto bene. Però, ecco, da questo punto di vista qui, io volevo avere delle informazioni che per me sono scontate sul ruolo dei maestri, cioè, per esempio, perché i maestri si accordano col comune? Cioè, in fondo, questo fatto qui che è decisivo, il momento che questi pensano di non andarsene, che convenienza hanno? Cioè, evidentemente hanno una convenienza. Ecco, in che termini si pone questa convenienza? Primo. Secondo, i maestri non hanno associazioni. Non lo avranno. Ecco, questo è un altro problema. Cioè, come mai in una società che è strutturata evidentemente proprio dal punto di vista costituzionale per societates, no? Tanto è vero che il comune in fondo è una societas da un certo punto di vista, l'universitas è una societas. Il terzo polo intermedio che sono i maestri, che in fondo è un po' quello decisivo, perché rispetto a loro che c'è questa diaspora oppure no, e quindi è rispetto a loro che i rapporti tra comune e discenti si muove, si articola, insomma. E come mai i maestri non hanno questa cosa? E quindi sembrerebbe che i maestri, se non hanno un'associazione, tengano col comune e anche con gli studenti, ma per gli studenti lo sapevamo, perché ce l'hai detto tu, ma anche col comune, tengono dei rapporti di tipo individuale. Assolutamente. Quindi c'è questa, è questo che volevo sottolineare, cioè in questa situazione che è per associazione, insomma, come dato di fondo, c'è questa strana presenza, che però è centrale, dei maestri come individui, sia da una parte che dall'altra. Questo qui, tu com'è che... Cioè, non so, mi piacerebbe capire di più come questo si spiega, come senso ha, non lo so. Assolutamente. Che è l'opposto, cioè lo sviluppo di mezzo università, no? È andato poi nella direzione opposta, cioè assolutamente meno. Sicuramente la direzione degli studenti. Sì, signore. Quasi anche quella della rappresentanza, diciamo così, dello Stato come cosa, e invece quello che è rimasto è la ricorporazione dei docenti, insomma. Questo può essere forse significativo per. Sì, sebbene l'argomento sia molto sinusoide, però la risposta è molto breve. Perché i maestri si alleano col comune? Dunque, innanzitutto i maestri protestano, ci sono alcuni che protestano, la massa non protesta. Devo dire che i maestri si sono molto bolognizzati. Insomma, mettono su casa lì e non pensano minimamente di andarsene, perché, e questo potrebbe essere una spiegazione, cioè non c'è una spiegazione di fondo, no? Però il legame con la tradizione, insomma si studia lì, questa è la civiltà stretta per eccellenza, dove andate di meglio, non c'è mondo fuori delle mura di Bologna. Lì ci sono degli interessi cospicui, grossi, io ho fatto i conti di tasca un po' da corsi, ho visto che ne hanno tanti interessi grossi. Quindi i docenti costituiscono un pool di cervelli sostanzialmente insostituibile in quel periodo. E questo addirittura per un anno, un secolo e mezzo, due, quindi possono fare il bello del prodotto. Sono un punto, come sarebbe, no? Se tu, Paolo Prodi, io dicessimo alcune cose che tutto il mondo è più facile, punto e basta. Dopodiché si possono restare, ammazzare, questo è un altro conto, ma noi non siamo sostituiti. Cioè, questo è chiaro, Assone non è sostituito, non c'è verso, non c'è niente da fare. Cioè, loro hanno una forza culturale in mano enorme, con tutta la spinta, la carica, eccetera, che si vede nelle loro produzioni. Queste grosse, faticose, articolate, difficili da leggere, no? Contrasti tra di loro, rivalità vivissime, eccetera, ma sostanzialmente il senso della corporazione. Questa corporazione è radicata a Bologna. Io credo che sia questo, quindi si mette facilmente d'accordo con il comune. Non è formalizzato. Aspetta, non è ancora formalizzato, per ora non è ancora formalizzato. Dopo sarà formalizzato. Non è ancora formalizzato, è un'associazione di gente in rivalità l'un con l'altro, perché chi più ha studenti più soldi. Perché c'è il modo di fare i soldi con gli studenti, poi si anticipano non solo perché gli studenti ti pagano, perché gli presti il libro, perché gli fai il mutuo d'usura, per tutte queste robe qui, perché gli affitti la stanza, insomma tu lo spogli lo studente in tanti modi e quindi fai un sacco di soldi. Ci sono dei brevi papali, per esempio, che assolgono a corsi da questi conti precisi, l'usura per esempio. Non c'è dubbio. Quindi lo studente è un grande fonte di ricchezza per la città. Il comune non li vuole mollare, perché la città è diventata una città biblioteca, è diventata una città studio. Bologna è una grande biblioteca, è una fabbrica. I maestri hanno delle interessenze con coloro che fanno i loro libri, che copiano la grossa. I maestri in sostanza, in poche parole, hanno creato una struttura tale in cui fanno quello che vogliono e la fanno a Bologna, quindi non hanno nessun interesse ad andare via. Questo è il primo punto. Anche perché in prevalenza, in principio, sono abbastanza bolognesi, insomma, cito il caso. Ma perché, come si spiega la necessità di imporre il giuramento? Perché? Certamente. Perché c'è sempre il rischio che su pressione degli studenti, per esempio, ma perché non andiamo a fare l'università se qui andiamo a Trento che facciamo molto meno strada per venire da casa? Cioè c'è anche la tendenza, da un lato, degli studenti di voler andare fuori, non legarsi, non vincolarsi alla città, ma tenere la propria libertà, perché in questo modo, e gli studenti riescono a tenerlo questo, cioè in sostanza di non vincolarsi, possono andare via a un certo punto. E d'altra parte no, c'è un altro fatto che è di una semplicità totale, cioè che ci sono enti concorrenziali che pagano gli studenti, certi docenti di più perché se ne vadano. E quindi interrompono la catena, portare via da Piglio, da Bologna, è un fatto non sostituibile tanto facilmente. E beh, smutati smutanti, questo poi vale anche per voi, il fatto che voi siete andati via da Bologna, un buco l'ha lasciato. Diciamoci bene le cose che non ho detto. Non voglio fare né paragoni... Il modo che hanno usato per non voglio fare né paragoni fuori posto né cose, però io dico che il buco che ha lasciato Paolo Prodi a Bologna negli studi sulla storia, nessuno l'ha chiuso per ora, se non mi prendi bene. Poi è così, Prosperi non l'ha chiuso quel buco lì. Avrà fatto altre cose bellissime, quel buco lì rimane. Ora il comune non vuole volare nessuno dei docenti, nei vecchi, nei giovani, perché non sono tutti i vecchi. Mentre invece, per esempio, Modena fa ricche offerte a Piglio perché va da Modena. Quindi Modena dice, oh, che gli ha sognato la giustizia, una serie, ma cosa stai a fare qui? Va a Modena, dove la giustizia è più bella, dove tutto è più ricco. Questo. Quindi ci sono delle tendenze dei docenti, di una parte dei docenti. Complessivamente però i docenti accettano il giuramento del comune, perché il comune dà delle garanzie. Che il comune dà delle garanzie di tutela, di sicurezza, vero? Per esempio sono tutti esonerati dalle collette, no? Loro non devono entrare nelle 25 del comune, non devono fare i servizi militari, non devono fare le guardie. L'indennità fiscale. Le indennità fiscali, cioè il comune dà dei grandissimi vantaggi a questa gente. Questa gente legata alla tradizione bolognese non si muove e quindi l'accordo, direi, mi pare abbastanza facile, mi pare. Senz'altro tendenza, non c'è più quando gli studenti, la debolezza del momento dello studente, la forza del momento degli studenti è che può andare via. Un po' come adesso, che la sua forza è scassare l'università, però non ha poi la forza di farne un'altra, quindi a un certo punto deve tornare a casa. E infatti dopo poi a un certo punto il momento degli studenti deve tornare a casa, finché poi viene fuori Bartolo, viene fuori Baldo, vengono fuori degli altri punti di cervello, loro si può andare a Perugia, capisci? Ma è un processo molto lento, il comune tende a bloccare questo, una parte dei docenti accetta questo, sono i giovani, ripeto, che andando via poi creano della nuova cultura, eccetera, non dei docenti, questo è il primo dato. I docenti a loro volta fanno una corporazione per banco, il collegio dei dottori, per banco il quale controlla il rubinetto d'uscita, cioè le lauree, cioè il momento delle lauree, e si mette d'accordo in questo senso e inventa, diciamo, tutta la cerimonia delle lauree, il fenomeno delle lauree, eccetera. E soprattutto entra il collegio per definire un pochettino, cominciare a definire che non siano i troppi, in qualche modo per cominciare a definire la concorrenza. Il collegio dei dottori è costituito, ha studiato abbastanza bene, abbastanza in fretta, sorbellico, ma soprattutto, ma il collegio dei dottori è una realtà abbastanza interessante. Notando due cose, che il collegio dei dottori, abbiamo i rotoli, a differenza, i fenomeni sono uno dentro l'altro, a differenza degli studenti, non si divide per l'azione. Non si divide il collegio di dottori, abbiamo due collegi di dottori giuristi, quindi abbiamo tre collegi di dottori, uno per gli artisti e due per i giuristi, ma quelli giuristi non sono divisi in oltramontani e citramontani come gli studenti, ma in docenti di diritto canonico e in docenti di diritto civile, cioè i dottori seguono invece l'indicazione scientifica, non seguono quella territoriale. Ma esiste un collegio, una corporazione di dottori potentissima evidentemente. Né c'è traccia di raggruppamenti per nazionale, non esiste. I dottori non esiste. I dottori diventano tutti bolognesi, in sostanza, parlo sempre del periodo creativo, vero? Perché dopo il problema cambiano, hanno delle condotte di anni, vanno e vengono, dopo su 4-500 il fenomeno cambia molto. Allora il fenomeno, il dottore è già un altro discorso. Quando nasce, però sempre nella stessa linea. Nel 300. Primi statuti mi sembra che siano circa contemporanei a quelle università. Abbiamo i rotoli anche dei dottori, abbastanza tardi, con l'elenco di tutti i dottori. Per il periodo più tardi c'è un po' proprio questo fenomeno della bolognicizzazione appunto quasi completa dei dottori, no? Sì. Forse comincia anche nelle tue epoche, ma poi fine 400-500. Beh, in assoluto. L'intreccio anche di interessi economici, di proprietà immobiliari, eccetera. Sì, sì. L'intreccio con il patriziato senatorio più tardi, perché le linee di derivazione tant'è vero che poi dopo c'è la reazione nel 500 a questo fenomeno con la creazione delle cosiddette cattedre eminenti. Io adesso sono un po' per l'età più tarda, quindi, cioè il comune ritiene di dover fare 4, 6, 8 cattedre chiamate eminenti, lo stipendio è di 10 euro, più o meno. 10 volte dico per dire una. Sì, sì, c'erano anche i conti, mi ricordo che. Rispetto allo stipendio del professore ordinario, proprio per poter attirare ancora persone dall'esterno, perché invece il tiraggio dall'esterno di grossi docenti è venuto meno per questa prevalenza assoluta del collegio dei dottori che tendeva a autoprodursi e fare. Quindi, Gli ultramontani, i dottori erano molti, rispecchiavano la proporzione degli studenti. Ah, ce n'erano tanti. Se io faccio presente, non so, i canonisti, mi viene in mente Stefano di Tournai, no? Mi viene in mente Alano Anglico, parlo di quei del 200-300, ma se parliamo anche dopo, sono parecchi i docenti. Però sempre meno, Paolo. Però sempre meno. Cioè, adesso ricordo solo la disputa sempre meno. 500, non c'è dubbio. Del giusto Lipsi a Bologna, insomma, non c'è ci sono tante complicazioni. Non c'è dubbio. Censure religiose, eccetera, ma insomma. Non c'è dubbio. Avere giusto l'ipsio diventa già uno sforzo enorme, insomma, che poi non si concreta perché giusto l'ipsio dice che non gli interessa. Non c'è troppo. Si parla anche di trattative per anni. Volevo chiedere un'ultima cosa, perché chiedi tu. Questa corporazione, il collegio di dottori ha anche giurisdizione. Il collegio di dottori ha anche giurisdizione formale, ma non l'esercita più. Addirittura rinuncia a un certo punto alla giurisdizione, come troppo faticoso e oneroso. Quindi i dottori non hanno un ruolo speciale? Non hanno, cioè, hanno il loro, sì, il loro privato, per vacco. La loro immunità personale. La loro, è la loro fora privato. Non c'è. Che è gestito dal collegio di dottori. Che è gestito dal collegio di dottori. Come capita per l'università. Come capita per l'università. Scusa, questo non l'avevo inteso. Rinunciano ufficialmente a un certo punto, non mi ricordo più quando, alla giurisdizione sugli studenti. Che già non l'avevano. Non c'è solo formale. È solo formale. I rapporti, diciamo così, un po' direi di tipo anche patrimoniale, non so come dire, organizzativo, insomma, tra i dottori e il comune. Sì. Se ci saranno a un certo punto, il comune li paga. Comincia a pagarli. Benissimo. Sono rapporti che in qualche modo, che tu sappia, sono gestiti dalla corporazione, cioè dal collegio, o comunque il collegio ha una sovrintendenza, organizza in qualche modo, oppure sono rapporti puramente individuali del singolo docente col comune. Per quello che ho visto, ma è un punto che non ho studiato, quindi qualunque risposta di lei è corretto, è un rapporto individuale tra singoli docenti del comune. Cioè il comune comincia a intervenire a pagare alcune persone, comincia a integrare gli stipendi e comincia a cercare di contare. Su questo punto poi i dottori loro fanno blocco, perché non vogliono neanche diventare dei salariati o dipendenti del comune. La loro fonte di reddito restano gli studenti. Questo non c'è dubbio, fino a che ci sarà quel momento in cui invece tutto sarà pagato 500, quando la mobilizzazione sarà totale, quando praticamente lo stipendio viene praticamente tutto dal comune mediante la Gabella Grossa. Ma questo è legato alla fondazione dell'Archisinale, e allora il comune stabilisce un organico, il senato poi e stabilisce quanti ci devono essere, eccetera. Poi si andrà poi anche lì a numero aperto e ciascuno prenderà un appannaggio per fare quasi niente, ma questo è un altro conto. Abbiamo un numero di dottori altissimo per autogenerazione spontanea con bassissimi livelli culturali. Questi sono dati dell'età moderna che non sono in grado di controllare. Questi li sa forse Paolo Prodi. Non sono in grado, se non per alcune indicazioni di massima, tipo quelle che ti ho dato. Ma il rapporto tra i docenti e il comune è un rapporto amichevole, affettuoso, col comune che tende a intervenire, con i docenti che accettano fino a un certo punto questo intervento. Questo mi sembra chiarissimo, però per un certo punto lo accetto. Io la sua posizione sembra averla già colta in una frase della risposta a Piero, comunque riformo la domanda, anche se fosse banale. Cioè, è un'opinione comune è appunto che lo studente rappresenta l'università medievale una fonte di ricchezza per la città, insomma, questo era quanto anche sosteneva la Cinefasoli, se mi ricordo, sì, sì. Ecco, però c'è chi anche, e la Legoff per esempio, e dice che tutto questo è falso, perché in un'economia di sussistenza come quella medievale, cioè approvvigionare una città, cioè fornire da mangiare a questa massa di studenti, era in realtà un fatto estremamente così difficoltoso per la città, senza contare poi tutte quelle immunità, privilegi, esenzioni da tasse, eccetera, di cui volevano gli studenti. Sì, ecco, io volevo quindi una sua impressione, se non una risposta esaustiva, cioè qual è secondo lei di queste due ipotesi, perché nel caso che sia valida la seconda, allora non capisco perché il comune dirà, va bene, il prestigio culturale, cioè si accoglie l'onere di un'università, cioè per il principe da 500 in poi, lo capisco, per me è stata tardi, deve formare quadri burocratici, gestire il sapere, eccetera. Ma ecco, volevo quindi riflessione sull'università. No, non conosco questa ipotesi di Goff, ahimè. E quindi sto zitto, ma non mi sembra evidente. Non capisce poi ragioni, è la formula senza spiegare come. Ecco, non la capisco, che bisogna sentire uno studioso, come si dice, così evidente, è la verità. Quindi, se quando ho qui le dormitabat, oppure se invece ha delle tesi no. Perché per quello che riguarda tutta la storia bolognese, ma direi la realtà attuale, tutto sommato, no? L'università è un momento sempre molto pericoloso. Cioè, la dialettica tra università e comune, insomma, i fatti dell'anno scorso, no? Con gli studenti che corrono in mezzo alla città e buttano giù le vetrine, no? Sono successi varie volte, perché nel 1321 gli studenti hanno potuto operare la città, in poche parole. Quindi è sempre un rapporto difficile. Si tiene dentro un blocco armato, insomma, un blocco irrequieto, un blocco presuntuoso, pretenzioso, arrivano figli di principi, arrivano grandi principi della Chiesa, arriva della gente, insomma, che sente il proprio ruolo, quindi è difficile ospitare. Però questa gente in sostanza porta dei quattrini perché deve affittare. D'altra parte i problemi dell'approvvigionamento a Bologna ci sono, ma non sono poi particolarmente gravi. Una delle tesi che appare fin dal 1155 dice noi stiamo bene, qui c'è un bel clima, e poi dice abbiamo anche tanto da mangiare, nel senso che la grascia è abbondante, no? E questo è. Quindi i problemi alimentari che ci sono stati sicuramente, però insomma non saranno affrontati per quelle 1000-2000 bocche in più che le avranno aggraviate, eccetera. Cioè, nel confronto invece a quello che è il reddito che questa gente comunque porta dentro. Comunque, perché questa gente deve pagare le tasse di immatricolazione, no? Ma dopo lo Stato, quando lo Stato diventa il gestore, prima paga la sua tangente al maestro, ovvero paga le cose che acquista, paga l'affitto delle case, compra delle case, ma cosa fa? Compra dei libri, si veste, compra delle armi, insomma attiva tutta per l'industria della seta. L'industria della seta a Bologna non è che esercita con gli studenti, ma insomma vende belle sete agli studenti, perché ha dei soldi. Quanti abitanti aveva Bologna? Beh, noi lì abbiamo i conti praticamente di Pini, e li porta tra i 40 e i 50 mila, cioè sono tanti. I conti di Pini sono stati appena rifatti e credo che siano buoni. D'altra parte abbiamo tanti frammenti di censimento, per cui l'impressione è che Pini, l'hai sentito anche tu mi pare, no? Parlavo di Pini quell'anno, parlavo di Bologna l'anno che andammo a Bagno di Lucca? Parlavo di Bologna? Direi sì, è un fatto così, senz'altro. Poi dico, le crisi ci sono, le carestie ci sono, ma tuttavia la zona permette una ricca rifornimento sia di carne che di vini, che di, insomma, non c'è dubbio, insomma, da questo lato non è questo il problema, ecco. Quindi non capisco veramente lo servizio delle cose, non c'è dubbio. Pensate solo al patrimonio albornoziano che viene dentro con il Collegio di Spagna, insomma, cos'è costato fare il Collegio di Spagna, cosa costa mantenerlo. Pensate solo adesso che in fondo il Collegio di Spagna dà da lavorare a quante persone, compreso Galeati che stampa il mio libro. Lo so, dico anche adesso, questi esempi si vedono ancora bene, gli affittacameri dalle stanze a 5.000, 50.000. Io se gli studenti vogliono applicare il canone sociale, no? Ma le stanze costa 50.000 lire, dico, a chi vanno quei soldi? Non ai bolognesi. No, forse serve indipendentemente dal colore politico, se mi permette, perché gli studenti li sperano tutti. Cioè, ma non può spiegare che le università non è presente questo testo in agglomerati molto avanzati, molto grossi e molto ben strutturati, no? E quindi in fondo spiega come mai siano tanto poche, cioè spiega la difficoltà forse dell'origine dell'università in città non apprezzata allo scopo. Indubbiamente 40.000 persone nel 200, nel 300 significa oggi Parigi, Amsterdam, siamo a quei livelli lì, altissimi. stato lo strumento per bloccare questo isolo di cervelli che poi creavano naturalmente altrove. No. La laurea è il modo della formalizzazione dello studio, cioè il docente quando via via scade il suo potere lo aumenta mediante l'intervento dello Stato e la cerimonia della laurea e quindi il riconoscimento del famoso licenza ubico docente, che deve essere molto antica, degli anni proprio della gloria dello studio, no? E di Onorio III, anche quello. E la laurea viene innovata nel senso della forma, ma la laurea quindi preesisteva la forma. Dunque, la laurea, anche su questo mi rifaccio lo studio di Cencetti abbastanza rapido su questo punto, non sappiamo moltissimo, questo è tutto materiale da studiare, d'altra parte dovunque ci voltiamo c'è da studiare, quindi non c'è problema. Però, ecco, sì, Cencetti, rimando a Cencetti e rimando a Sorbelli sulla laurea, no? Molto semplice, in principio non c'è nessuna laurea. Poi abbiamo la licenza di docenti, che poi diventa licenza ubico docenti. Questo si fa con due momenti in genere, nella tradizione bolognese, uno privato e uno pubblico. Uno privato davanti al collegio dei docenti, durissimo, con dei punti, discussione e anche talvolta elaborato scritto. Una prova molto dura per quanto noi veniamo. Cioè a un certo punto questa gente apre, i libri sono quelli, apre il digesto, ti dà il titolo del digesto, un passo e si va giù. Per esempio intorno ai limiti, non so, del legato. Se sono ammissibili legati pro anima, fino a che punto? In condizione, insomma, dei punti, mi viene in mente la prima cosa, materia fidicommissaria, che è una materia terrificante allora come adesso, e dal punto e il punto di puncta si discutono in pubblico, cioè la seduta di laurea, con relatore e contro relatore, cioè c'è il relatore, il docente suo, e abbiamo notizie anche di scontri molto duri, di imprecazioni di accursio, di varie robe, poche varie ma ci giungono. Poi c'è la cerimonia solenne, che viene abbastanza più tardi, che si fa in San Pedrone. Scusate, non è sempre grave, mi sbaglio, si fa in San Pietro, con la cerimonia addirittura, chi ha soldi, con un bel cavallo, con pompa, eccetera, e quella è più formale, quella c'è, è una lettura, è una dissertazione, no? E questo è soltanto però per la licenza e praticamente per l'acquisto del dottorato, cioè la piena del titolo di licenza, perché la licenza per docente è praticamente uguale al titolo di dottorato, aggiungendo che molti la laurea non ce l'hanno. Si accontentano sempre il titolo di baccalaureato, di una licenza, un riconoscimento di studi fatti, senza arrivare alla laurea. Quindi le pare che in maniera accettabile la teoria secondo la quale la laurea è un po' così il riflesso della mentalità corporativa secondo la quale l'apprendista presenta insomma il lavoro compiuto al maestro. Anche se all'inizio non c'è questo. In principio non c'è niente, chissà cosa c'è, probabilmente niente, la spiegazione più logica è quella, cioè uno va via e dice io ho fatto 3 anni con il Nervio, buongiorno, buonasera, chi è il Nervio? Ma è un tale da cacciare il diritto romano, ah è quel tale lì, ecco. Però ben presto evidentemente il Bulgaro eccetera gli ha mandato dietro una notula, ha detto questo qui ha studiato diligenter con me per 4 anni, avrà detto, immagino, non lo so perché non sono rimasto. Tutto si paga, tutto si paga, è caro. Tutto si paga, è caro. Non corrisponde proprio alla formalizzazione di tutte le corporazioni. Però vi diamo un titolo, si può dire, con cui voi andate a Bratislava e potete così concorrere agli uffici, non so, del Tribunale Ecclesiastico. Voi ve ne andate a Tours e potete diventare giudici del re, applicando il diritto francese, ma con tutta la metodologia del diritto romano, quindi siete giuristi dotti. Momento, vi diamo un titolo che serve, mica chiacchiere. Con costanza, per gli episcopati che necessitano la laurea. Io lo sapevo, ecco, quindi se vuoi diventare episcopus, insomma, vediamo un titolo che è un bel titolo, insomma, questo non c'è discussione, e resta un bel titolo anche, non solo in principio, ma sicuramente ancora il 300, ancora il 400, dico un titolo di Alessandro Tartania, un titolo dato da Ludovico Bolognini nel 506, insomma, non è l'ultima roba di sto mondo, eh. Io tendo sempre a dire che dopo il 1348 casca il potuto, ma insomma. Io ho l'impressione, siamo veramente, cioè, per tutti questi studi sociologici, incidenza, frequenza, numeri, presenze, incidenza, queste cose ci sfuggono ancora molto, però sono titoli buoni, non diamo via i titoli che diamo adesso, diamo dei titoli buoni, licenze ubiquo i docenti, insomma, no? E poi sono cosa malvagia, specialmente venendo da Bologna, perché per Padova ha grande rilievo, Perugia per esempio no, Perugia è legata alla grandezza di Bartolo, e Bartolo, è andato via Baldo. Una domanda, scusa, su questo, sempre su questo problema, la cerimonia veniva in San Pietro, e quella solenne insomma, sì. E questo corrisponde alla funzione dell'arcidiacono? Sì, l'arcidiacono è il segretario della commissione, per dire così. e accerta che testimonia che queste sono fatte, l'autorità ecclesiastica. E questo implica appunto un intervento anche più forte dell'autorità ecclesiastica tra il XIII e il XIV secolo, o se un'autorità, diciamo, modesta, insomma, così, di garanzia? Io direi più, non direi più questo, non mi pare, non lo so. Direi che è più una funzione di certificatoria, direi. Cioè che l'autorità ecclesiastica determina, tutti lo riconoscono, che il Papa ha questo controllo, diciamo, sulla cultura, e quindi la licenza bolognese è quella che è controfirmata in questo periodo, perché dopo cambia e tante cose ci sfuggono. Quindi, cioè, l'arcidiacono diventa il cancelliere, insomma, del collegio dei docenti. Tant'è vero che in Inghilterra ancora i rettori si chiamano Vice Chancellor. Cancelliere, cosa vuol dire cancelliere? Vice-cancelliere, perché ecco. Il cancelliere è il vescovo per definizione. Vedi? Cioè l'autorità ecclesiastica. E là prende il posto del rettore, cioè queste tradizioni. Ecclesiastica però come grande sigillo culturale. Come grande sigillo culturale, cioè come testimonianza della verità di quelle operazioni. Quindi una sorta di... Io ci vedrei al limite, cioè ci vedrei soprattutto una funzione notarile. Io ci vorrei una funzione notarile, mi pare. Per sé, non sì. Mica... Infatti è il vescovo che sarà il cancelliere dell'università, e l'arcidiacono è il vice cancelliere, quindi... La cosa attinente alla scuola cattedrale, in certo qual modo, no? Ecco, tu dicevi prima, parlato del Collegio di Spagna, che si è strutturato su una base linguistica. Mi sembra chiaro. La nostra germanica lingua aveva solo il latino? Dunque, in tedesco esiste qualcosa o in un'altra lingua, diciamo, degli appartenenti all'altra germanica? Dunque, se ricordo bene, i documenti sono tutti in latino secondo l'uso. Però ci deve essere delle contronote o qualche cosa compare in tedesco, forse le battute, eccetera. Se ricordo bene, avendo scorso gli atti, ecco, avendo scorso gli atti, però la loro lingua ufficiale dotta è la lingua latina, si fa il insegnamento in latino si scrivono gli statuti, in latino si dicono le preghiere, probabilmente in latino si fanno i discorsi solenni nelle cose, ma evidentemente però nelle riunioni normali si parlerà in idioma tedesco, io sono quasi sicuro su questo punto. Pensi che nelle riunioni non parlassero in latino, no. Anche con la presenza di persone non tedesche? Vabbè, ma io ho l'impressione che tutti quelli che fanno parte della cosa tedesca conoscono, e dopo a un certo punto c'è prevista l'obbligatorietà della conoscenza della lingua tedesca. Parlo per l'età più antica, dopo a un certo punto è prevista l'obbligatorietà della lingua tedesca, ma questa è in età moderna, quindi non c'è questa norma negli statuti medievali, che sono quelli più... Però dopo a un certo punto viene introdotta l'obbligatorietà della lingua tedesca, cioè vengono quelli che sono di madrelingua tedesca. Quindi tra di loro, e quindi se sono polacchi, benissimo, sono boemi, cosa vuol dire? Ho studiato il tedesco, sono bilingui, sanno il tedesco. Io credo che la nazione germanica in età moderna non avrei dubbi, anche se non mi ricordo i documenti, perché tutti i documenti sono in latino, se non ricordo. Per questo sempre, anche per gli italiani. Ma ecco, senz'altro, ma la loro lingua interna, insomma, gli scherzi se li facevano in tedesco, questo va da sé, ma anche le loro riunioni, non quelle liturgiche, perché la liturgia è latina, perché la nazione rimane una nazione cattolica. Cioè, sempre è una nazione cattolica. È sempre una nazione cattolica, quindi la liturgia è sempre cattolica. E fra luterani quando poi sono andati fuori? No, c'è praticamente l'obbligo di essere cattolici. C'è anche l'obbligo di essere... Non c'è l'obbligo, ma si intende nel culto, eccetera. I ultramontani che fossero venuti a Bologna con un'altra religione... O non si iscrivono alla Nazio, o si camuffano, o non vengono più, credo, a Bologna. Io credo, cioè Bologna rimane una città cattolica, non c'è dubbio. Adesso abbiamo una tesi. Direi perché. Su questo problema caro, ci sono dei cattolici tra il bimbo. Oppure si camuffano. 160. Gli ebrei in che posizione? Non lo so. Gli statuti non li nomina mai. Credo che non si scrivessero alla città sulle cose. Io sugli ebrei a Bologna abbiamo però non lo so. Abbiamo vangato tutto, ma non ci sono. Su quello che non ci sono testimonianze. No, anche perché purtroppo per Bologna le testimonianze sulla comunità ebraica di Bologna sono nulle. Dunque, per la comunità di Bologna, non so per i problemi strettamente universitari. abbiamo dei frammenti, ma nessuno di questi. Una grande comunità, come non ci deve mai essere stato in confronto di Ferrara, di Mantova, dove lì. Invece credo che ci fosse e che invece poi si è andata persa proprio. Ma tanto già nel 500 fino alla fine. Sì, ma proprio perché da Bologna sono andati a Ferrara. L'importanza della comunità ebraica di Ferrara arriva tutto dal fatto che la comunità ebraica di Bologna praticamente si è spostata a Ferrara nella metà del 400 e nei primi del 500. Cioè è stata una grossa migrazione perché gli Este hanno favorito questo. E lo Stato Pontificio invece ha iniziato le grosse persecuzioni. Sono arrivato poi l'espulsione di Sisto V di Clemente VIII di tutti gli ebrei dello Stato Pontificio alla fine del 500. Sì. Ci sono questi grossi fenomeni. Ecco. Ma questo era già cominciato prima, ma perché precedentemente tutti i vicoli da Via dell'Inferno. Tutto quel quadrilatero lì, che aveva le proprie porte, eccetera, appunto già in forma. Ma prima viene costituito un ghetto, poi c'è l'espulsione delle proprie, ci sono vari passaggi intermedi. Comunque diciamo una espulsione già in epoca remota, scusate per il termine ignorante, quindi io vedo che a Mantova, mi ricordo, prima alla fine dell'Ottocento c'era ancora il ghetto con le porte che si chiudevano, le catene che tiravano. Posso usare un sarebbe tanto da dire ancora. Scusate, ma chiedo scusa. Io non sì, questo però io non ho problemi. Diventa un segno dell'approvazione. Prendilo così. Vi dicevo, grazie di Io devo scappare via, caro professore. Grazie, grazie a lei della sua presenza. Piacevole, grazie. Grazie veramente. Arrivederci, sono felice. Buongiorno, buongiorno, ringrazio. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno. Questi qua di San Giovanni del Persiceto, ho scritto anche a Bertelli a chiedere di tutta la collana di Santa Luce. Poi lo spedito continua gratuitamente, regolarmente, ho pubblicato in Bolivia, in Maglia, che li comprendo. Sono una troppo tante, sono quelli che stanno provando tutta l'Italia, sì. Qui c'è anche un abbonamento per la Luisa, sarà per me, per un esportatore abituale anche. Scrivono qui, scrivono mica, vediamo. Certe cose tutte perché dobbiamo abbandonare. Ma io...